Barisone è diventato vicepresidente, né? Cruce, è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia. Luciani, dica a quel coglione di pazzo che deve solo ringraziare di avere un lavoro. Se non gli va bene mangiare il panino e cambiarsi nel parcheggio, me lo lascia a me sul lavoro, che sono disperato, italiano e Paco può andare a fanculo. La Cina ci deve dare i soldi, non vogliamo le mascherine e medici del cazzo, vogliamo soldi! Il rompe paga, i cocci sono i suoi. Luciani, sabato 7 marzo incontro mia nipote che mi fa: sto andando a cena a casa di amici, siamo una quindicina. Gli ho detto: dove cazzo vai, imbecille? Lo sai che c'è il virus? No, no, mi ha risposto. Ho sentito Sgarbi in TV, ha detto che sono tutte cazzate. I genitori di uno di loro, tutti e due infettati, e il nonno di uno di loro morto. Hai capito, Cruciani? La libertà di pensiero, quando c'è un'emergenza, non conta, non vale un cazzo, non esiste la libertà di pensiero. Grazie a Sgarbi, e tu in parte, avete morti sulla coscienza. Coglione! Questo è un cretino totale. Dal bunker di Via Monterosa a Roma, casa di David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera cari amici, buonasera. Vi suggerisco di leggere Massimo Recalcati. Giù il microfono, su Repubblica. Mamma l'audacia mia, nascosta, ma chi se ne frega? L'audacia nascosta. Ma chi se ne frega? Ma la gente sta pensando a campare, Recalcati, a sopravvivere. Altro che, che articoli su Repubblica, nutrite articoli sui giornali. L'anima. La gente anche l'anima. Pensa alla sopravvivenza quotidiana. E si sale sulle barricate. Lui dalle sue case, dai suoi possedimenti, dai suoi appartamenti, parla di che cosa? Che schifo, guarda. La gente è incazzata, la gente non sa come fare in 40 metri quadrati e tu suggerisci letture alle persone furibonde in queste ore perché non si sa quando arriveranno i soldi e quanti soldi arriveranno. Cazzo, è incredibile. Sei incredibile. Questo è un argomento serissimo. E tu, e lui suggerisce letture. Ma no, lui ma non suggerisce è che una cosa delle letture. Tu mi hai detto buonasera, io ho detto buonasera cari amici. Roba buonasera, che tu guarda, questa musica inquietante. Ho detto semplicemente buonasera cari amici, vi saluto. Incredibile, vi suggerisco di leggere un ma la gente di non ha il tempo di pensare agli articoli su Repubblica, su Corriere della Sera. Le persone pensano solo alla sopravvivenza quotidiana, certo, in 5, in 50 metri quadrati. Ma non lo nego. Ma non lo nego, no, lo neghi perché non lo vivi, anzi, non lo vivi, ed è drammatica questa cosa qua. Dove vivi? Entra 50 metri quadrati, 50 metri quadrati. Ma quali 50 metri quadrati che hai venduto quella residenza in Umbria guadagnando milioni di euro con un plus valore, peraltro milioni di euro con tutta quella tenuta. Non è di mia proprietà e soprattutto non ho venduto nulla. Facendo facendo uno sgarbo a tutti gli altri familiari che non volevano vendere. Lasciamo stare, non voglio neanche entrare nelle vostre cose. Ma di famiglia, dici delle follie totali. Vabbè, ma dici abbiamo detto come Salvini, che intanto ritwitta, che te ne frega, poi vai a smentire tu che quel video lì non si riferiva al Covid-19. Ma intanto però l'hai detto. Vabbè, Luca, posso dirti una cosa? Posso Cruciani dirti una... già la villa in Umbria, sì, ma che c'entra, l'ha venduta, ma no, non è manco mia, ma smettila. Ma smettila, ma è di chi è? Diciamolo tutto, diciamolo tutto. Ma qual è il punto? Stai cercando di sviare. Avete deciso pazzi, di intestarla ragazzi. A un trust, a un trust che ha sede in Lussemburgo e poi te la prendi con l'Europa. Vergogna. Io ti porto via tutto, ti porto via. Tanto la cosa incredibile, tu suggerisci letture, mentre la gente, questo è un argomento molto serio, la gente, no, questo lo so, la gente ormai fra poco darà l'assalto ai supermercati, già è successo, già è successo. Speriamo, fra poco ti farò ascoltare delle voci, ma... la gente fra poco, ti dico, se non arrivano dei soldi, ma no, io lo dico con dispiacere, tragica. Darà le l'assalto ai supermercati subito. Con le mazze no, ferrate. Ma infatti questo è il noi tema saremo oggi, dalla parte oggi, della legalità sempre, noi saremo sempre dalla parte della legalità, però no, ma la cosa è molto però, seria, però, immediatamente De Luca, intanto De Luca, ragazzi, io perché sono così innamorato di questo personaggio? Tu lo sai che io a casa ho un ritratto del signor De Luca. Un ritratto c'è del signor De Luca. Di Dell'Utri. Ho un ritratto anche uno di Dell'Utri. Di Dell'Utri e del sottoscritto, naturalmente, senza paragonarmi a costoro. Ho un Joker e ho, come sai, svariati busti, tra cui Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, disse eccetera, povero, eccetera. Disse il povero busto. Ma che la gente ma ha busti di poco case. Conto, di 4 soldi, basta l'immagine lì, dai, su. Alla fine di questa crisi lo vedremo, alla fine di questa crisi lo vedremo. Con un busto ci sfami una famiglia, con uno dei tuoi busti. De Luca, De Luca. Qualcuno ha sollevato i problemi della privacy. Si vuole controllare il cittadino. Beh, se si mettono in piedi iniziative per controllare che le persone contagiate non vadano in giro per diffondere il contagio, beh, è evidente che bisogna limitare questa libertà. È un crescendo, vi ho dato solo un antipasto, è un crescendo. Le mascherine. Senti questa che storia, non vi voglio anticipare nulla. Siccome dalla protezione civile, dal dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora amici cari, vediamo di capirci bene. Quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine, queste cose. Beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definirle mascherine. Ecco. A meno che non si pensi, diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti a carnevale. Questa va bene come maschera per Bunny, sapete, il coniglietto. Non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di Bunny il coniglietto. Ah, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo, le lenti. Sono veramente un prodotto eccezionale. Ma negli ospedali, vi voglio bene, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. Ragazzi, ma perché, io dico una cosa, no? Cioè, perché quest'uomo non viene, come dire, promosso sul campo in queste situazioni? Gente così andrebbe promossa sul campo. Noi vediamo delle facce ogni tanto terribili, con tutto il rispetto, delle facce terribili, funere, non che De Luca abbia una faccia che ispiri, insomma, però insomma, sono dei pezzi teatrali clamorosi, sono delle, la gente sorride dello stesso tempo terrorizzata, cioè ci sono le due cose insieme. Hai l'idea di uno che ha il polso, batte, che ha, dire, batte in i pugni sul tavolo e però matanza. Ti fa la battuta. Noi ogni giorno abbiamo Borrelli e quell'altro Brusaferro, che uno Brusaferro si tocca ferro. Borrelli adesso, per carità, grandi febbre, tecnici, Borrelli. Sì, da un po' di tempo. Poi adesso c'è Arcuri, primo giorno già annunciato 1000 morti. Dico, non vorrei dire niente, però è il primo giorno che fa la conferenza stampa, se non sbaglio, 1000 morti. Ho capito, però, perché sono i dati, sono i dati. Poi non ho capito una cosa, c'è il top dei morti e nello stesso tempo la curva, ci annunciano la curva sta scendendo. Lo so, sono due cose diverse. Vedi la gente, esatto, però la comunicazione, esatto, sono due cose diverse, lo capiamo, ma noi, gente, se lo ma sai, tu non puoi spiegarlo, dare questa, no, comunicazione del cazzo. Spiegalo. No, ma lo stai spiegando, no, molti dillo dicono, allora. Molti dicono, molti dicono, sì, d'accordo, però molti dicono che le notizie vanno anche dati in un certo modo. Dare ogni giorno una notizia: oggi 1000 morti, la curva sta scendendo. Le persone normali non capiscono un cazzo, ma è giusto che non capiscano un cazzo. Non puoi dare ogni giorno un'informazione, tre conferenze stampa e la regione Lombardia, quella e quell'altro. E dai, fai una volta ogni quattro giorni, punto e basta. Tanto la gente che cosa cambia? Questi dati sono inutili. I trend sono utili. Dalli dopo quattro giorni, arrivederci, grazie. Non so chi l'abbia detto, il sindaco Sala, dove avrei detto un sacco di cazzate, una volta ha detto una cosa giusta, dai. De Luca, ancora, vai. Ma come ho detto ai miei collaboratori, sì, ricordatevi che noi in Campania dobbiamo combattere contro due nemici. Ah, bene. Il primo è il virus. Il secondo, ed è un nemico che è presente in grande quantità nella nostra regione, il secondo nemico sono i portaseccia. Ecco, voglio tradurre per i nostri amici di Milano. Appunto, sì, interessante. Dicono portaseccia, soggetti dotati di poteri oscuri, diciamola così, che hanno ereditato al bisnonno, il nonno era. Cioè gente che sta male, se le cose vanno bene o se non ci sono problemi, stanno male. Stanno male. Sai che ancora non ho capito bene, cioè, perché dici ci sono due nemici, i virus e i portasecce, cioè i porta sfortuna, chi sono? I menagrama, chi sono? Non ho capito bene. Quelli che sono contenti quando le cose vanno male, che quindi magari se ne approfittano pure da una situazione di svantaggio, così l'ho capita io. Un grande. Allora, molti se la sono presa oggi col Comune di Roma, perché ha fatto una cosa, secondo me, giusta. Te lo dico subito, praticamente ha istituito, poi il fatto che funzioni è tutto da vedere, so già naturalmente. Di che cosa stai per parlare? No, il fatto che funzioni non lo so, vedremo se funzionerà. La denuncia globale, io la chiamerei la delazione locale, così si chiama. Ma qual è il problema? Non ho capito. Se tu vedi un assembramento, c'è un numero verde, una specie di numero verde, credo, un numero verde, da quello che ho letto. La delazione pubblica. In cui una persona chiama e dice: guarda, sto vedendo un assembramento di persone lì, qua, in quella via, in quel palazzo, eccetera. Ma qual è il problema? Molti hanno detto una vergogna, i tempi del nazismo, la delazione. Che vuol dire la delazione? Quelli, no, le persone, no, che si riuniscono segnalazione... sono un pericolo pubblico. Tra l'altro sono anonime, dice la Raggi. È totalmente anonima, cioè non è che ho capito, ma uno non funzionerà, perché non è che il Comune di Roma sia così efficiente. Ma io non ho efficiente. Detto di essere dico semplicemente che pensassero invece a mandare in giro più pattuglie dei vigili urbani, ma magari, ma quello tanto non va devono da mettere sé. Multe. Ma quello non va devono da mettere sé. Le multe, ma perché va... tutti sono tutti a casa, no? E quindi quello forse è più utile. Ma quello va da sé che devono mandare i vigili urbani in giro, ma quello già lo fanno, spero. Il punto non è quello, il punto è se tu metti un numero verde, che hanno detto la grande delazione, lo scandalo, non funzionerà un cazzo. Vediamo, intanto se tu vedi un gruppo di persone che sono riunite per strada, segnali, chiami, scusi, vigili urbani, buongiorno, qui ci sono 10 persone in via, che ne so, a Piazza Vittorio. Benissimo, veniamo. Qual è il problema? Non ho capito. Mi lascia perplesso. Altra anche follia. Perché poi magari fai perdere tempo ai vigili o a qualcuno, e magari semplicemente o gente che fa scherzi o persone che vogliono rompere i coglioni a dei vicini di casa, cioè poi sai... Ho capito, le cose vanno... Ma meglio una cosa in più, cioè le persone che stanno in strada non ci dovrebbero stare, sono potenzialmente delle bombe, delle bombe a orologeria. Hanno depenalizzato la cosa, secondo me le persone che non vanno in giro e non dovrebbero andare in giro andrebbero arrestate, fermate e arrestate per non so quale devi reato. Sempre esagerare, arrestate. Devi sempre esagerare. Invece devi 200 sempre andare oltre. Invece sempre, 200 sempre euro oltre. Di multa, 200 euro di multa danno, hanno depenalizzato tutto, 200 euro di multa. Ti rendi conto che cazzo di paese che siamo? In India, a bastonate, non so se hai visto quelle immagini in India dove la gente viene trovata presa, a bastonate. Io abbastonate. Abbastonate. Sarà un paese serio, democratico quello. Allora, molti ironizzano, addirittura dei virologi lo pigliano per il culo, questa è gravissima questa cosa qua, dei virologi italiani impegnati sul territorio, tipo credo anche Burioni, Lopalco, che è responsabile della sanità in Puglia, prende per il culo Boris Johnson, che è rimasto infettato dal coronavirus. Ti giuro, lo hanno preso per il culo su Twitter. No, vabbè, non si tratta di prendere in giro, lo di fargli gli auguri. Preso per il culo. Hanno preso un signore per il che culo fino a qualche Boris giorno Johnson. Fa voleva no, qualcuno potrebbe dirgli: vuoi l'immunità di gregge? Allora, perché visto che sei giovane, perché non sei comunque troppo vecchio, e solo i vecchi oltre i 60 devono starsene a casa, allora uno dice: stai fuori. Ma non è da prendere allora in giro una persona che si è ammalata. Pierluigi Lopalco, che è un virologo, credo un responsabile di igiene, non so che cosa, grande esperto, bravissimo, che è responsabile del team che sta combattendo il coronavirus in Puglia, ha scritto: la fortuna è cieca, ma il virus ci vede benissimo. con le frasi di Boris Johnson, con la notizia di Boris Johnson infettato. Johnson fino a pochi giorni fa diceva: continuerò a stringere le mani a tutti. Però, amico mio, hai fatto una cazzata, evidentemente. Posso dirtelo, hai fatto una cazzata. Non è che dico godo, come molti mi hanno scritto o mi hanno mandato dei messaggi: sto godendo per Boris Johnson. Ma che cazzo vi godete, no, imbecilli? No, che cosa godi, cretino? Assolutamente. No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. You'll be pleased to know, and I continue to shake hands. And hey, continue to shake hands. Sono positivo, sintomi blandi. Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough, and on the advice of the chief medical officer I've taken a test that has come out positive. Cruciani del cazzo, Paco ti ha dato una lezione di senso civico e di italianità, capito? Impara. La zanzara. Auf, credi che questa mia non sia poesia? Zanzarosi, è giornata difficile, eh? Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Demoni rogli, assiomi cementificati. No, Presidente del Consiglio De Luca, di più. Papa, Papa, lo voglio Papa. De Luca, voglio un'Italia militarizzata. Madonna, mi fai sciogliere, De Luca. Dove sei? Oh, mi ha chiamato l'immunità di gregge. Mi ha detto di dirvi... Boris Johnson. Poveri dementi. Per carità, si può godere delle disgrazie altrui, eh? Ma questa non è una disgrazia, cosa vuol dire? Nulla. Quella aveva annunciato l'immunità di gregge. A un certo punto si è praticamente rimangiato tutto, più o meno si è rimangiato tutto. Poverino, poi si è vedremo. Poi vedremo. In più si è ammalato. Qualcuno, vabbè, la cattiveria esiste dappertutto, nei social, nella vita. Allora, il Comune di Roma ha comunicato questo. Voi ditemi se è il caso di parlare di delazione, di nazismo, di non so che cosa. È una roba normale. Nazismo, chi ha detto sta fesseria? Qualcuno ha detto come ai tempi del nazismo. Ma ci sono assembramenti di persone che ritieni in contrasto con le regole dell'emergenza sanitaria. Puoi segnalarli direttamente all'autorità competente con il SUS, Sistema Unico di Segnalazione, attivo sul portale istituzionale di Roma Capitale. È semplice, segui le istruzioni. Vabbè, poi ci sono una serie di istruzioni. Ma cosa serve? Quando l'hai segnalato, quando non tempo so, passa, poi io dico controlli. Semplicemente, cioè, una cosa che serve semplicemente a creare così un po' di, no, l'idea: ah, ecco, a Roma quello lì mi potrebbe denunciare perché sono uscito a fare una passeggiata. Cioè, mi sembra una mezza follia, però per carità. L'eternità non è il Meluzzi, signor Meluzzi, amico mio. Mi sa che stasera te lo chiamo. Mi sa che stasera te lo chiamo. Mi sa che stasera te lo chiamo. Che bisogno c'è? Perché io mi guarderò bene dal dirvi le solite valanghe di sciocchezze che dicono anche molti colleghi, cioè che bisogna fare yoga, meditazione, sì, ascoltare la musica, mettersi con la testa in giù e le gambe in su, sì, dedicarsi all'arte terapia. Ecco, queste sono cazzate. Poi dice che le chiese bisognerebbe fare la comunione. Bah. Quello che è veramente importante è che ognuno possa vivere nella vita, nella morte, nel bene, nel male, nella sua legge. Allora, se la mia legge, per esempio, è quella di essere un innamorato di Cristo e di poter citare, come dire, insieme ai martiri di Abilene, non possiamo vivere senza la domenica. Io vi dico che se una famiglia, con tempo e senza tempo, è privata della possibilità di andare a messa, avremmo fatto una cosa gravissima. Poi lotta con Pregliasco, senti. Se una persona vuole recarsi in chiesa per adorare l'Eucaristia, sa da persona adulta di esporsi ad un rischio consapevole, se ve ne uno. Io credo non ce ne sia nessuno. No, non si può dire così, perché non è questione di un rischio, non è questione di un rischio personale. Molti meno di quelli che si corrono andando in supermercato, caro professor Pregliasco. cosa c'è? Lei che in questa televisione minimizzava i rischi. Lei qualche settimana fa, lei su quella sedia minimizzava i rischi. Non è vero, non li ho mai minimizzati. Sta andando fuori di testa, sta dicendo delle cose assurde, allucinanti. Aspetta, buono. È un rischio per tutti. Buono. Non diciamo sciocchezze. Alessandro, buono. Ecco. Aspetta un attimo. Ma delirante sarà stato lei, professor Pregliasco, quando io ho accusato di essere un allarmista e di essere un untore, annunciavo su questa rete quello che sarebbe accaduto mentre lei minimizzava. Io non ho mai minimizzato, guardi, andiamo a rivedere le cose, io ho sempre detto, questa è una stupidità, io non ho mai minimizzato nulla, ho sempre detto che il riferimento era la pandemia della spagnola del 1918. Voglio finire, io non ho interrotto, non ho interrotto quando il professor Pregliasco gli ha dato del delirante. Sta dicendo una cosa falsa. Non ho interrotto. Provinciale. But maybe we can go to London. E se ne va a Paris, so change quelque chose, restiamo a casa, amore. Allora, un altro mito di questi giorni. Ma cosa ha fatto di male Pregliasco per doversi confrontare con Meluzzi? Ma guarda che Meluzzi ha ragione su tutti i fronti, non sulla Chiesa. Cosa ha fatto? Non sulla Chiesa, ma ha ragione su tutti i fronti. Ha detto delle fesserie. Ma quando mai? Ma è uno che ci ha beccato in pieno. In quello che hai fatto sentire, hai detto delle fesserie. La Chiesa è una follia. La Chiesa è una follia. La Chiesa è una follia. Il sindaco di Bari De Caro. Sindaco di Bari De Caro, che fa sempre in giro per la città e se la piglia stavolta con i commercianti che trattano male i vigili o addirittura con i clienti dei commercianti. Senti. Non vi dovete permettere di maltrattare i vigili urbani che stanno qua per fare il lavoro loro, per salvare la vita a voi e le persone che vengono a fare la fine. Se no ve li chiudo, non vi permettete più. Non vi permettete più di maltrattare i vigili urbani. Non va bene. Dovete chiedere scusa ai vigili urbani, stanno qua a fare il lavoro loro. A rischiare il culo le persone, stanno rischiando il culo i vigili urbani. Per voi e per le persone che vengono a fare la spesa, perché dobbiamo mangiare tutti a casa. Intanto ti ripeto, la gente comincia ad incazzarsi. Senti questa signora, potrebbe essere una signora qualunque, si chiama Angela, in una casa qualunque dell'Italia profonda, non la tua Italia, David, non la tua Italia, l'Italia profonda, l'Italia che soffre, l'Italia che soffre, non l'Italia del privilegio. Mi ci metto anch'io nell'Italia del privilegio, tua, per carità. La tua. No, la tua, soprattutto la tua. Io vengo, io tua, sono più in basso. Dipende dai metri quadrati in questo momento di cui uno dispone. Comunque, in ogni caso, soprattutto la tua. In ogni caso, ti faccio sentire questa signora che parla a nome di un'Italia incazzata. Vede, signor Presidente, mi fa incazzare quando nelle sue passerelle televisive le sento dire: comprendo la vostra difficoltà. No, caro Presidente, lei non può capire una mazza di come si sente oggi un comune cittadino. Si è dato alla pazza gioia con decreti sempre modificati e rinnovati, incollando migliaia di gente alla TV a sentire le sue cazzate. Posso dire che sono cazzate! I suoi decreti sono cazzate, caro Presidente! Bene, caro Presidente, se lei non annuncia più presto la sospensione dei pagamenti delle utenze, oltre alla sospensione dei mutui, degli affitti, dell'IRPEF, dell'INAIL, dell'INPS, dell'imposta sui redditi, dell'acconto 2021, e chi più ne ha più ne metta, perché in Italia è così. In Italia succederà la guerra. Beh, ragazzi, è stupenda questa Angela ed è il cuore dell'Italia, eh? Parla a nome dell'Italia intera, della gente normale, della gente no, ma non capisci questa è la realtà, non capisci, non capisci perfettamente, non capisci. Ti devo queste segnalare una cosa. Tu cosa gli dici a queste persone? Tu cosa gli dici? Date l'assalto ai supermercati, no, questo quello sei mai, tu quello mai, io gli quello dico mai. Che le banche devono subito aprire il credito, che queste persone banche devono avere subito quei soldi da spendere subito. Allora, per ragazzi, fare la spesa. Vi dico una cosa, ieri sera a un certo punto ho preso una notizia notizia che poi è stata confermata, cioè noi abbiamo dato in questa situazione di crisi e in tutto questo bordello abbiamo dato 50 milioni di euro che magari non sono nulla rispetto alle grandi cifre che sono investite, che servono, no, per quello che sta succedendo, però 50 milioni di euro in questi giorni alle imprese tunisine. Alle imprese tunisine, non ti dico niente. Imprese questo è l'accordo tunisine. Ma questo dire. Non mi interessa. Sei come Salvini, bloccate. Che no, cosa no, so, non mi interessa chi l'ha detto. E sei come Salvini, no, l'ha detto che l'ambasciata italiana, la del, l'ambasciata italiana della, Tunisi. Ma, c'è, ma è un accordo. Hanno dato in queste ore 50 milioni di euro ai tunisini, non agli italiani. Sì, ma non è che sono con quelli compravi le mascherine. Le mascherine le hanno già comprate, solo che le deve fare arrivare. Sì, perché non è partito sono soldi questo pagamento? Hai... Perché è partito per adesso questo pagamento? Perché non è stato bloccato? Ma andava bloccato 50 milioni di euro. Che dateli ad Angela, dalla Libia, dateli a 50 Angela. Per evitare che dalla. Per non, evitare che. Ma no, quindi alle quindi imprese non tunisine, alle imprese tunisine, sì, alle imprese tunisine. I posti di lavoro per evitare che poi sia pure l'arrivo, che ci sia pure l'arrivo. Ivan da Caserta, sei incredibile. Vai. Pronto? Dimmi, Giuseppe. Dimmi, Ivan. Dici, il padrone a casa nostra, lasciamoli a casa loro. Dimmi, Ivan. Però per quel nano valesico comunista di Parenzo, veramente. Dimmi, cioè, Ivan, che cosa c'è? Cosa non vuoi comunista, dire? Allora, almeno post-comunista. Non comunista. Cosa, post. Quel bastardo di Gottardo. Quel bastardo. No, calma, dire, calma. Ragazzi, che no, cosa. Sì, poveretto, no, se n'è andato. Allora, Ivan, cosa vuoi? Cosa vuoi, Ivan? Cosa vuoi? Poveretto. Giorgio dalla provincia di Vicenza. Mi hai rotto. Giorgio, subito mi hai rotto. Giorgio, provincia di Vicenza. Niente, Francesco, provincia di Taranto, dai, Francesco, dimmi. Niente, non c'è nessuno, dai, chiediamo la trasmissione. Dimmi, dimmi, Francesco, dimmi. Sto da porti due quesiti. Sì. Mi senti? Sì, dimmi. Allora, il primo. Secondo voi, siccome il germe e il batterio dicono tutti che non si conosce, giusto? Sì, più o meno, no. Lo dicono. Vabbè, dicono tutti i virologi così. Come ci fanno a dare delle precauzioni? È logica la domanda, no? No, è una puttanata. Cioè, le precauzioni sono generali e sono quelli che valgono per molti virus, naturalmente. Ah, e no, lei dice la terapia per. Lei di che cosa parla? Il vaccino questo non c'è ancora. No, ma di non cosa il vaccino, io dico come fanno a darci delle precauzioni. Ma le precauzioni valgono per il contagio, però anche questo è vero. Certo. Lui ha ragione, Francesco, perché fino adesso la gente ha letto qualsiasi cosa, hanno scritto qualsiasi cosa. Le mascherine, no, sì, mascherine, no, le i metri, però metri, mi pare che siano. No, ha ragione, posso mezzo. Dirti? Ha ragione, Francesco, fermi tutti. La zanzara. Off Ocean Avenue, where I used to sit and talk with you. We were both 16 and it felt so right. Sleeping all day, staying up all night. Staying up all night. Una guerra civile è l'ultima cosa che gli italiani vorrebbero fare. Ma se sarà inevitabile, io da donna, Angela Amico Anzalone, sarò in prima linea, perché sa, Presidente, la gente prende sempre di più la consapevolezza che se ad ammazzarci non sarà il Covid-19, sarà la vostra politica criminale che ci farà morire di miseria e di povertà. Perché se guerra dovesse nascere, sarà una guerra del popolo contro lei e contro tutto il resto della mangiatoia, caro Presidente. Sarà una guerra contro di voi, caro Presidente. Vi sapete solo gestire i vostri pagamenti, tutti, destra, sinistra. Con questa vostra politica avete diviso il popolo. La saluto, Presidente. Buona riflessione e rifletta bene. Vergogna! Ridicoli! Criminali! La saluto! E se vuole queste cose gliele dico in faccia! Non ho paura di lei! Vergogna! Eccola qui, caro David, eccola qui, la voce. la voce della gente incazzata. Non te lo dico sorridendo, sì, naturalmente per la teatralità, no, dici, mi fa divertire la teatralità. Certa soddisfazione, purtroppo, ma la cosa è drammatica. Però la signora Angela è incazzata nera, è incazzata nera. Giustamente, come siamo tutti noi incazzati neri, però ci sono delle persone che perdono quotidianamente dei quattrini, dei quattrini. Certo. Per adesso a noi non succede. Per adesso a noi non succede. Certo. Per il momento. Ci sono persone che se non incassano non perdono dei soldi. Non mangiano. No, ma non mangiano. Questa è gente punto. Che rischia di non o mangiare. O si mettono i soldi fisicamente nei conti, non so come, non mi interessa, non è affar mio, fisicamente nei conti correnti delle persone. Oppure c'è un grave rischio, tu lo sai bene amico mio, lo sai bene lo che so, c'è un grave rischio. Ho sentito poco fa, spero che lo abbia fatto anche tu, il Cosa? Grande intervento che ha fatto il capo dello Stato, è stato ma, non è, ma la gente non interessa, per carità, va benissimo, ma la gente non interessa l'intervento, come non interessa del Papa, anche che classe politica, il Papa va bene, fa il suo mestiere, no, gli interessa è in piazza come San Pietro, gli interessa, però la gente gli interessano tintin, che arrivino dei quattrini sul conto corrente, non il Quirinale, non il Papa, che prega in piazza, va benissimo invece, il Papa, lo sentiamo, va bene, questa immagine di questa piazza per la stessa cosa. Vuota. Sono tutti impegnati. Senti, nella il Papa stessa non mi direzione. Risulta sia impegnato per farci arrivare dei soldi sul tutti, conto corrente, non tutti, mi pare impegnato tutti, il Papa, impegnato. Non mi pare impegnato, Silvano tutti. Provincia di Bergamo, dai Silvano dalla Poi provincia di Bergamo, non ha le incredibile, sei incredibile. Pronto, pronto, buonasera, sono Silvano il camionista. Vai Silvano, vai avanti. Allora tutto. Io volevo dire a quel testicolo di Paco, perché se dico che è un coglione si offende. No, per carità, Paco combatte, lotta insieme a io noi. Io sono 45 anni che giro tutta l'Europa con il camion e giusto, sai quanti panini mi sono mangiato? E ringraziare Dio quando c'ho il panino. Giusto, protestava perché mangia dentro dormo, la macchina il panino, diglielo. 5 notti alla settimana, d'inverno al freddo e d'estate al caldo. Ma avere ragione. Delle condizioni di e lavoro accettabili viene è una cosa che dovrebbe auspicare anche lui. No, no, è italiano. È italiano, sciocco allora, di uno sciocco. È sì, un italiano, è un lavoratore italiano che garantisce con la sua fabbrica che tu ti possa pulire il culo. Lui producendo le cose che fa, ti garantisce. Io non voglio parlare con i comunisti. Ignorante, che non sei altro che un ignorante. Ignorante. Che veniamo anche a cercare te qualche giorno, non preoccuparti. Ma cosa vai a cercare? Che non sai neanche. Che non sai neanche trovare. Ma dove vai? Vogliamo trovarti, ma chi? Ma se vogliamo chi? Se vogliamo devi startene chiuso in casa. Guarda, non devi rompere i coglioni, questa è l'unica Paco fortuna della situazione. Parenzo insieme da poter dire Paco, tu lo devi ringraziare perché è un coppia. Operaio che va tutti i giorni a lavorare e sì, produce beni di prima necessità anni, che usi anche tu che usi, ma non sei l'unico eroe, tutte le volte telefoni per dire che sono 45 anni che lavori, non rompere i coglioni, come tutti lavori, come tutti stai zitto ogni volta telefoni per dire ma sono 45 anni, avrai io soldi, ma sei un pidocchioso. Ma ti rendi conto? È perché ti dà spazio quello lì, c'è quello lì che sta a Milano, quel ricco cervello, miliardario dietro pidocchio. Il microfono, quel Cruciani lì che si diverte a darti comunque la voce, niente, a darti la possibilità Cruciani, di dire. Questa è la gente, Paco, questo è uno che tutte coglioni. Le volte chiama. No, stai zitto. Tutte le volte questo no, chiama e dice zitto, oh, sono 45 anni che lavoro. No, lo sappiamo. Lo sappiamo, non ci sono sorelle. Lo sappiamo, lo sappiamo che vuoi, ogni volta parenti, questo parla, qualunque cosa accada, questo chiama e dice: qualunque cosa accada, arrivano gli immigrati, c'è il coronavirus, c'è la porcaccia della puttana, qualunque cosa accada, lui dice: oh Giuseppe, sono 45 anni che lavoro. Lo sappiamo. Ma è giusto. Come tutti, lavori come piange, tutti, non rompere i coglioni. Ogni volta che accade una cosa, questo chiama per dire che sono 45 anni. A parte che io ho 10 anni che sono qua. Saranno allora 55 anni semmai, perché io ho 45 e sono 10 anni che faccio la radio. Se tu ogni anno chiami io e dici che sono 45 anni che lavoro, adesso aumentiamo ancora. Dovevi restare in Inghilterra, ringrazio secondo me, Dio è un posto che mi dà meraviglioso. Ancora devi di lavorare in Inghilterra. Pagare le tasse devi in avere, paese. Devi avere, grazie, devi mi sei venuto devi in Italia. Avere rispetto per Silvano che si rompe la schiena da anni su un camion. Succede, chiama e dice sono 45 anni che ma certo che le paghi, ma non è una cosa straordinaria. Diglielo quel pidocchio. Ma certo che le paghi, ma ci mancherebbe certo. Altro, ma vergognati, ma ovvio. Sì. Ma che devi vantare? Pagare le tasse per bravo, avere fai il tuo dovere. Stato come ce l'abbiamo noi e gente ma che viene qua. Ma che stato hai che tutti vengono curati qui? Tutti sono curati in Italia. Che dici? Ma che sciopero? Ma non è gente, è un lavoratore sciocco d'uno sciocco che non sei altro. È un operaio, porta rispetto. Solo questo qua lavora. Solo questo lavora. Allora, Silvano, come sta vivendo? Ogni volta che chiama sono sempre 45 anni che lavori. Tra 10 anni che saremo ancora qui a fare la zanzara. Cruciani col catetere, io con la barba bianca, chiamerà sto stronzo per dire sono 45 anni che lavoro. Quando sento che hanno dato 50 milioni di euro ai tunisini mi viene da vomitare, perché è il mio sudore, hanno dato il mio sudore ai tunisini. Cruciani. Ma quale tuo sudore? Quale industria tunisina? Dove questa sono le industrie in Tunisia? Dove sono? Questa è l'informazione firmata Cruciani. No, io ho riportato una notizia dell'ambasciata ufficiale dell'ambasciata italiana a Tunisi. Le mitragliatrici, i pick up per andare in giro a uccidere la gente. Beh, adesso questo non credo, perché ci sono delle imprese tunisine. Loro comprano i pick up e le mitragliatrici con i nostri 50 milioni di euro, con il mio sudore. Io voglio dire una cosa. Perché sono 40. Ripetimelo un po', quanti anni è che lavori tu, che non ho capito ancora? Sembra sono 50 che anni, quanti ho anni 64 sono? Anni, ho 50. Cominciato 14. Erano 45 fino a ieri. Erano 45 fino a ieri. 45 da camionista adesso. E 5 anni da meccanico, coglione. 50 anni che lavori. Tu devi lavorare, devi domani, vivere 10.000 anni per lavorare. Perché quel ti stanno sui coglioni i comunisti? Non capisco perché ti stanno sui coglioni i comunisti. Come fanno a non starci sui coglioni? Vedi come ragionano. Vedi come ragionano. Ma come fai a dire... Cioè non puoi neanche intraprendere un discorso con questa gente, hanno sempre ragione loro. Ma tu stai sei incazzato anche tu col governo? Ma io sono incazzato anche col governo, vorrei vedere che faccia qualcosa per non per me, che forse io non mi posso neanche lamentare, però ci saranno delle categorie, gente, non c'è dubbio, famiglia, non c'è dubbio, figli, non c'è dubbio. Che avranno più bisogno di me, io non dico per me. Vabbè, comunque tu sono 45 anni che lavori. Ma perché non può lavorare da 45 anni? Qual è il problema? No, 50 anni, ogni cosa che accade. Ah, 45 anni da camionista. E 5 anni in officina, sono 50 anni che lavoro. Ma perché ti dà fastidio la gente che lavora? Perché ti dà fastidio? Vedi come gira le cose. A me dà fastidio che lui, ogni cosa che accade da 10 anni a questa parte, in questa stracazzo di trasmissione, questo chiama e tu lo tratti come un capo di Stato e poco male. E dice: sono 50 anni, 45 anni che lavoro. La tua presenza. 10 anni. Comunque vi dico una cosa, l'ultima cosa e poi vado a mangiare la faccia di Parenzo. Dimmi Silvano. Sì, allora, cosa mangi noi dobbiamo stasera? Sempre ricordarci stasera? E tenere conto cosa che al Vaticano ci sono tonnellate di oro. Quello è vero. E possiamo andarcele a prendere. Lasciamole come ultima. Vorresti fare l'assalto al Vaticano? Lasciamole come ultima opzione. Beh, quello però, devo dire la verità. Lasciamola come ultima opzione. Ricordiamoci che abbiamo tonnellate di oro. Uno da una radio nazionale dice diamo l'assalto al Vaticano e quell'altro dice e adesso dirà grazie per aver chiamato. Senti, guarda adesso, grazie però, per aver chiamato. Uno dice diamo l'assalto al Vaticano. Io ho detto solamente... No, ma infatti io ti dico vai a fare in culo. Ma Cruciani dirà grazie per aver chiamato. Dirà grazie per aver chiamato. Ma grazie un corno, imbecille. Però scusami, Silvano. Va bene, arrivederci, grazie. Sentiamo Marco da Milano. Sta dicendo una cosa che quando è guerra è guerra, così diceva una volta. L'oro, che cazzo non teniamo a fare l'oro? Uno dice quando è guerra A un certo punto, quando siamo se dobbiamo morire di fame, diamo l'assalto. Abbiamo l'oro, andiamo a prendere l'oro grazie. Prima. Vedrai, no? Dirà, grazie, Silvano. Lo ringrazio. Ciao, Silvano. Dice, grazie. Grazie. Vai a fare in culo. Ma vai a quel paese. Adesso vai a fare in culo tutti i comunisti d'Italia. Adriano dalla provincia di Verbania. Adriano, grazie. Uno ha appena detto assalto al Vaticano. L'altro, grazie di aver chiamato. Ti rendi conto? Adriano, provincia di Verbania, è un delirio. Ci sono. Ah, ti dico subito: abbiamo individuato la signora Angela di prima, incazzata nera. Abbiamo individuato. Evviva! Avanti un altro. Di Caltanissetta. Forza. Dimmi, Adriano. Allora, avanti tutta. Ciao, dimmi, Adriano. Volevo salutare innanzitutto Parenzo. Innanzitutto. Buonasera, cosa diamo? Ecco, cosa diamo l'assalto a che cosa oggi? Sentiamo. È l'idea di Cruciani. Tu stai trascurando la rabbia della gente. Stai trascurando la rabbia della gente. No, tu invece stai esagerando. No, io non la trascuro per niente. Perché? L'idea del cazzo. Perché? Che è una settimana che io sono in casa e ricevo quotidianamente la visita delle forze dell'ordine per verificare che io sia qua. Vabbè, questo non lo so. Adesso sono domiciliari anche dalla Svizzera. Ma non ho capito. Qual è il paese tuo? Qual è la località dove vivi? Domodossola. Vabbè, a Domodossola saranno più solerti, saranno più attenti. Bravi, però. Cioè, no, ma hanno chiamato anche dalla Svizzera, ma hanno chiamato anche dalla Svizzera dove lavora mia sorella, per sapere se io ero malato. E vabbè, ho capito. Ho capito, i vigili urbani vengono. Però, ma capito. Qual è il problema se uno viene controllato? Quanti non abitanti ha nulla? Fa Domodossola? Scusa, quanti abitanti fa? Sono 20.000 più o meno. Un evidentemente po' meno di qualcuno ha fatto una segnalazione. Cioè, tu che fai? Il medico? Sì, che no, fai? No, non forse. Io sono un informatico. Posso uscire per lavorare perché è un e lavoro. Qualcuno avrà detto andate a controllare pure quello là perché esce o perché non esce. Andate no, a controllare. Che fino a 10 giorni fa lavoravo in un'altra regione, in Lombardia. Poi sono rientrato a casa per fare smart working. A qualcuno è bruciato il culo e quindi adesso mi hanno segnalato come io fossi l'appestato del paese. E vabbè, e ma qual è il problema? Controllare. Ma qual è il problema? È che io devo uscire per lavorare e ho due genitori anziani e quando vedono carabinieri, vigili urbani che suonano il citofono chiedendo del loro figlio, loro si preoccupano, ma figurati. Vabbè ragazzi, ma ho capito, però a Roma vogliono fare un'altra cosa, se tu vedi degli assembramenti in giro puoi chiamare e puoi segnalarli, non vedo qual è il problema. Ragazzi, la guerra è guerra, fermo là. Ma io non faccio un assembramento. Fermo. La Zanzara. Cioè, la Morgese ha avuto il coraggio di denunciare De Luca per il Cateno De Luca per vilipendio. Ma stiamo scherzando? Io sto con Cateno De Luca tutta la vita. Avete fatto sempre quello che cazzo volevate in Italia. Ora che finalmente stiamo prendendo dei provvedimenti seri noi in Sicilia, come sempre ci dovete umiliare, denigrare e violentare nello spirito, nell'anima. Cruciani, lo vuoi dire chiaramente che la Cina ha rovinato prima il mondo a livello economico? Perché loro fanno lavorare la loro gente 12 ore al giorno anche sabato e domenica e i loro prodotti costano un decimo dei nostri. Lo vuol dire questo che hanno rovinato il mondo economicamente e che ora lo sta rovinando col suo virus a livello mondiale, così poi ci mangia tutti vivi a livello economico, dopo prende tutto la Cina, anche perché guarda caso in 2 mesi è già fuori da questa cosa e ora trovano anche il virus e ce lo rivendono a peso d'oro. Vedrai. Ovviamente non è il virus ma è il vaccino. Questo è Paolo da Firenze, caro Parenzo, una nostra vecchia conoscenza. La nostra vecchia conoscenza. La nostra, grazie, grazie per aver chiamato. Sono complice, processeranno anche me. Lo so, processeranno anche me. Ma perché cosa ti devono processare? Non ho capito. Sono complice. Per aver dato voce alla gente. Quello dall'assalto al Vaticano. Grazie per aver chiamato. Fabio da Bergamo. Ma come Fabio da Bergamo? Ma quello ha detto dall'assalto al Vaticano, grazie per aver chiamato. Ma sei un criminale, sei. Comunque, Silvano è ancora collegato perché incredibilmente Paco ha chiamato anche lui perché bene, è Paco, molto certo. Incazzato per l'intervento di Silvano. Certo. Paco, sei incazzato? Certo. Perché sei incazzato? Sono qua Cruciani. Intanto questo coglione. Ciao Paco. È il solo soletto. Deve essere chiaro. Io ho detto che noi abbiamo la mensa. Abbiamo tutta la gente che lavora con la soda, la gente che lavora con dei prodotti contaminati. Se questo ignorante quello, fai la tua denuncia. Aspetta, ascoltami, non si tratta di denunciare un cazzo. Intanto mi dice che devo andare via, dove deve andare via? Ma no, non ha detto questo. Bravo. Silvano, cosa hai detto? Silvano, scusa. Ho detto che anche se per un periodo deve mangiare in macchina. È già fortunato che ha da mangiare. Giusto, dai, giusto. Io ho mangiato 45 anni nel camion. Tu non hai capito un cazzo, tu sei minorante prima di dire le cose. No, quello che capisce un cazzo, qua tu sei tu. Sei minorante, tu sei un gran pezzo di merda, ignorante tu, che non sei altro. Probabilmente la soda ti ha rovinato il cervello, hai capito? Buzzura di uno. La soda ti ha attaccato il cervello e probabilmente non ragioni bene. Insieme ai nico non ti sei altro. Ascolta qua, chi lavora? Chi usa dei prodotti contaminati. Ma quello è l'una. Lui stava parlando del panino. Dice il panino, Silvano. Ma mangiatene 10 di panini. Ma che cazzo? Allora, il panino, chi va a mangiare il panino in macchina ha una pausa di un'ora e mezza. Ma qual è il problema a mangiare? Quella è una vita! Quella è una vita che mangia panini! Tutti quelli che mangiano il panino in macchina devono fare sciopero? Ma è la cosa più piccola, è mangiare il panino in macchina. Non è il discorso mangiare il panino in macchina, non è questo. Io sto parlando di sicurezza sul lavoro. Perché lo sciopero, sì, i sindacati volevano fare sciopero. Vabbè, non l'hanno fatto poi. Non l'hanno fatto perché hanno avuto... Perché sei incazzato con Silvano? Allora, i lavoratori, se non si sentono sicuri al lavoro, possono chiedervi di lavorare in sicurezza. Se ma certo, certo. Quello di lavorare in sicurezza, sì, ma tu l'altra sera parlavi del panino. Io ho una famiglia, tu sei solo soletto, stronzo di merda. No, io ho una famiglia, io ho una mia casa della mia famiglia. Probabilmente la soda ti ha rovinato il cervello. Io ho figli piccoli che hanno solo me. Hanno solo me. Mia moglie non lavora. Certo, certo. E che c'entra? Certo, hai diritto di portare a casa il tuo stipendio, hai sono diritto. Sono solo io dovrei avere la sicurezza di poter lavorare e tornare a casa sano e salvo. Ma chi dice il contrario? Io non so se torno a casa sano quando parto. Tu sei un pezzo di merda, non sei niente altro che un pezzo di merda. Io beduino. Devo in sicurezza. Tu sei un beduino, la soda, probabilmente soda caustica ti ha rovinato il cervello. Lo so, però se volevo fare per chiedere la sicurezza dei lavoratori che lavorano in sicurezza. Perché Marco, in questo periodo, fammi parlare un momento. Fai parlare Silvano. Marco, io conosco bene la realtà delle fabbriche, perché sono 45 anni che entro e esco dalle fabbriche di tutta Europa. Sì, sì. Io, tanto di cappello a tanti lavoratori delle concerie, sono andato a scaricare pelli nelle concerie. Ho visto molte fabbriche. Il tuo hai capito? Cervello è scaricato. Probabilmente lavori con la soda. Ti dico l'ultima cosa, vorrei vederti dare la pensione. Aspetta, pezzo di merda, io vorrei vederti con la mascherina. Questo sa dire solo testa di cazzo e pezzo di merda. Io lo dico a Cruciani che capisce un po' più di te, malgrado che le testa di cazzo come te. Sì, Cruciani, siamo tutti testa di cazzo tranne come te. Come si fa a lavorare? Allora, come si fa a lavorare? Con una mascherina? Con gli occhiali, ma nessuno casco, dice, nessuno casco, dice. Con la visiera, non vedi niente, si impana tutto, non puoi vedere. Ma fai la denuncia, fai la denuncia. Questo sono i datori di lavoro che devono capirlo. Che dici? Aspetta, Silvano, che stai dicendo? Scusa, che dico, dici? Queste sono rivendicazioni che deve fare col suo datore di lavoro, non con la radio 24. Io sono un sindacale, l'abbiamo fatto. Scusami, Silvano, tu. Silvano, senti un attimo. Nessuno che ti difende. Scusami, Silvano, tu li ami? I sindacati non li ami, tu, mi pare di capire, Silvano. No, io sono un piccolo padroncino, ho avuto gli autisti. Sindacati. Sono 33 anni che sono in proprio, non ho mai avuto problemi con nessuno. I sindacati ti stanno sui coglioni in generale? I sindacati hanno rovinato. I sindacati e i sindacalisti sono diventati tutti politici. Capito? Chissà perché. Capito, Paco? Paco? Sono i primi, sono i più venduti. Sono Paco? I venduti. Lazzaroni venduti e comunisti, sono comunisti. Ma questo Paco è comunista, Paco è comunista. A te piace Lazzaroni, comunisti. Ma lei di chi parla, della Polverini? Ma lei di chi parla? Comunisti, di chi parla, della Polverini? La Polverini? La sindacalista Polverini? Sono andati a fare i politici. Comunque, per chiudere il discorso, quando andremo al Vaticano, come ariete useremo la testa di Paco. Fascistello di merda. Usiamo Paco come ariete, che lui con la sua testa di cazzo apre tutte le porte. Non c'è un punto, non c'è un punto di unione tra. Ma lui due anni fa aveva detto che andava via. Che cazzo ci fa qua ancora? Non c'è un. Hai avuto un cazzo nella vita tua. Dovevi essere in pensione a questo punto. Non c'è. Sono in pensione e lavoro ancora. Non contarti la roba che metti nel panino. Non conto la roba che metti nel panino. Non hai niente. Mi pare che la conversazione si sia avvitata perché non c'è un punto di unione tra il proletariato, l'operaio Paco e il padroncino Silvano. Ma sono operaio anch'io. Sono tornato sabato, non è che sto a casa, io viaggio. Vedi che non c'è possibilità. Ciao Paco, ciao Silvano. Poi una cosa, vai a fare andare in culo. Ciao. Allora, mi scrivono diversi padroncini che trasportano per esempio gasolio che dicono che il governo dovrebbe ridare le accise sul gasolio. Non capisco un cazzo di questi argomenti, però insomma è un'altra roba che c'è. A Palermo cominciano a dare l'assalto ai supermercati, mi dicono, l'assalto ai supermercati, no, ci sono le camionette. C'è un caso, c'è stato, leggo qua, caso. Tentato assalto. Non abbiamo soldi, forze dell'ordine presidiano i centri commerciali. Tentato assalto al supermercato. Ragazzi, lì c'è anche la criminalità, probabilmente. Che ti devo dire? Che soffia sul fuoco. Alessandro dalla provincia di Lecco, vai Alessandro. Pronto? Dimmi Alessandro, dimmi. Sì, sono stufo di tutti quelli, compresi voi, che ogni volta che dicono una loro opinione, scusa ho il fiatore perché stavo facendo ginnastica. Ogni volta che dite qualcosa, dite gli italiani pensano, la gente dice ma parla per te, esatto, a me non hai mai chiesto esatto come la penso, quindi parla per te, per favore, chi ti rivolgi, scusami Alessandro, a tutte le volte che dici la quando gente, quando hai finito di fare la tua ginnastica casalinga magari nella comodità della tua casa da 200-300 metri quadrati, adesso puoi esprimerti tranquillamente. Vivo in un monolocale. Vabbè Alessandro, dunque non ho capito, tu contesti, ce l'avrai tu la casa da 300 metri, vedi, parli sempre di cose che non sai, mi conosci, no, allora appunto, cosa ne sai, dove vivo, stavo, io come la penso, appunto, io ho detto magari starai chiamando da dico, e invece quando, no, quando invece hai no finito, quando hai finito la tua ginnastica quotidiana invece di romperti la schiena come fa Paco, come fa come si chiama l'altro da Silvano, ma io non posso, Silvano, io da Bergamo, io non posso lavorare, no, ma fare. Io sono dalla parte anche dei commercianti, perché i commercianti sono i più penalizzati in questa situazione. Guarda, io ho perso 3 fiere. Però, a parte questo, quello che stavo dicendo io, quando per esempio, non so, commenti un discorso di Conte che a te non piace, ma non dire gli italiani pensano questo. Ma è un modo di dire, Alessandro. No, non è un modo di Alessandro, dire, è un modo... Ma lasciale fare al capparone dei cretini che cercano voi. A parte, Alessandro, scusami, Alessandro, scusami un attimo. Io, a parte che io non ho detto gli italiani pensano... Forse la gente, se mi è scappato... Italiani, io al massimo dico la gente. È uguale. No. Cosa ne... Tu parla per te, scusa. Sì, ma certo, io parlo sempre per me. È un modo per dire che io su alcune... Alessandro, su alcune frasi clamorose, non ma è che sono clamorose per te. Ma che cosa? La meditazione? Mi rifaccio all'ultima volta che ho detto la gente. Dio. La meditazione non è una puttanata condivisibile dalla maggior parte degli italiani? Vuoi meditare? Ascolta, che cazzo ti devo dire? Vuoi passare il tempo a meditare? Medita. Allora, se qualcuno ha da dire sulla tua trasmissione, dici non ascoltarla. Se non ti piace quello che dice Conte, non dagli retta. Ma che c'entra? Quello è il Presidente del Consiglio, è un altro discorso. Quando sostiene... che vado in TV a dire, agitatevi, preoccupatevi, angosciatevi, non c'è dubbio. Cercate di mantenere la calma e approfittate per fare... È un modo... È una puttanata. Si può dire che è una puttanata? Si può dire che è una puttanata e che la gente... Tu puoi dire quello aspetta che vuoi, non a nome della gente, a nome ma della gente. Ma io non sono a nome, niente. non parlo a nome di nessuno, parlo sempre... E invece lo fai sempre. Ma no, ti sbagli, perché sono modi di dire... E allora i modi di dire... Allora, Alessandro... Che la gente sia incazzata, che la gente, tra virgolette, molte persone in questo periodo, per dire, molte persone in questo periodo siano preoccupate per il loro futuro, per i soldi che non arrivano, certo, per quello che succederà. E allora di che parliamo? Calma, non all'agitazione, ma io non devo invitare, dicendo, ma riflettete e cercate sul vostro stile di vita, allora la meditazione c'è sul vostro c'è viaggio. C'è, ma se a te piace, ma se a te, ma non capisci un cazzo tu, se a te piace, il fatto di essere lì, avere un microfono in mano e essere ascoltato da tutti, ti dà il diritto di parlare a nome mio. Ma io non ti voglio, ma chi cazzo ti si incula? Ma chi ti si incula? Ma chi parla a nome tuo? Ma chi? Ma cosa c'entra? La gente è un modo di dire, cretino. Ma vai a fare in culo, vai. Ma che cretino sei tu, le parole che ho detto anch'io. Capito? Non mi fai paura. Ma chi ti vuole fare paura? Ma chi ti vuole fare paura? Ma chi ti vuole fare paura? Perché io ti ho detto una cosa. E allora che cazzo ascolti? Allora che cosa ascolti se fai pena? Che cosa ascolti se faccio pena? Cosa ascolti se faccio pena? Cosa ascolti allora? Cosa ascolti? Perché mi piace sentire opinioni diverse, proprio quello, ed è proprio infatti quello la stiamo che ascoltando. Tu. Appunto, la stiamo ascoltando un'opinione diversa. Ascolto opinioni diverse. Allora, Alessandro, nessuno, allora, forse tu non hai capito. Nessuno. Ma chi è? Io rappresento me stesso, innanzitutto. Appunto, fermo. Allora, fermo. Il punto è questo qua. Io rappresento me stesso. punto, sì. Punto numero due. Quando uno dice, ti faccio capire un po' come funziona il linguaggio, insomma, della comunicazione. Quando dire gli italiani sentiamo, sono incazzati, lezione, certo che ti posso dare tante lezioni. Ti posso dare le donne incinta e cose del genere. Sì, sentiamo. Ma guarda, sapete che manco l'italiano. Forse, e allora, se non sappiamo l'italiano, che cazzo ascolti a fare ancora? Cosa ascolti a te fare? Te l'ho detto per sentire le opinioni di quelli che chiamano le tue. Ecco. Perché dai, il posto dell'Italia, questo è il bello della tua trasmissione. E allora che cazzo vuoi? Ma chi la metti in onda questa trasmissione? Mio nonno in carriola? Chi è che la costruisce? Cretino. Sto solo dicendo, cretino sarai tu. Adesso si contesta l'espressione giornalistica. La gente pensa, le persone pensano che gli italiani pensano che tipica di fuori dal ma coro, possiamo, ma possiamo, ma possiamo parlare fino all'infinito. Ve lo diciamo noi, perché se non ve lo dice nessuno, ve lo diciamo ma noi. Ma cosa c'entra? Tipico, la gente pensa, la gente. Adesso dirà, questi la gente dirà, la gente scriverà qualche deficiente. T'ha dato una lezione questo cretino che semplicemente ha parlato, cioè ha parlato dall'alto della sua corsetta che ha fatto in questo momento sulla non so dove, ha detto: beh, non puoi usare espressioni populiste, io non la penso come te, grazie al cazzo, che c'entra? Alessandro Meluzzi con noi, eccoci qui. Buonasera, ecco, da uno all'altro. Buonasera a voi, eccomi. A proposito di populismo. Calma. Allora, evviva, caro Alessandro, a parte evviva. Che c'entra il populismo, che Meluzzi è evviva. Quello che è uscito trionfatore in quegli ultimi due mesi. Non è un esponente del fronte sovranista, nulla, populista, mi pare che sia quello. Esponente dell'autorevole fronte. Avrei preferito che mi dia la storia e i fatti, ma avessero dato torto, purtroppo mi hanno dato ragione. Ma devo dire che quello che in questo momento secondo me è importante rimarcare, al di là del fatto che bisogna tenere un clima il più sereno possibile, perché il paese è lacerato, è sofferente, però naturalmente il fatto di prendere atto della necessità di tenere una condotta unitaria delle forze. Ma io non sono d'accordo, io non sono d'accordo no, perché no, io sono d'accordo con questa cosa. Allora, io sono contrario a ogni unanimismo, appunto. Di questo. E però sono anche dell'idea che il modo migliore per mantenere questa, come dire, unità di intenti è quella che ognuno si assuma le sue responsabilità. Ecco, appunto, secondo te. Il governo Conte, devo dire, di responsabilità ne ha di gravissime, perché noi sappiamo con sicurezza, perché sta nelle carte, che al 2 di gennaio già il governo era stato avvertito dell'insorgenza di un gravissimo rischio di pandemia. Sì. Ma fino al 22 di febbraio siamo andati a mangiare gli involtini, a fare le danze tibetane. Ma se il virus è stato isolato il 10 gennaio in Cina? Ma se il virus è stato isolato il 10 gennaio in Cina? Di che cosa parli, Meluzzi? Il 10 gennaio è stato trasmesso dalla Cina, è stato isolato. Le date non coincidono. Vai avanti, Alessandro. Aspetta un attimo. Fallo andare avanti. Comunque noi il 22 di febbraio abbiamo dato l'allarme che avrebbe dovuto essere dato molto prima. Questo quindi è sicuro. Il governo ha delle responsabilità gravissime. Ha delle responsabilità gravissime e quindi il minimo che dovrebbe fare è dimettersi, questo è sicuro. Lasciando posto magari ad un più autorevole governo come quello di Draghi, che perlomeno potrebbe consentire di fronteggiare una situazione tragica che riguarda la salute, la sanità e l'economia degli italiani. Ma secondo te ci vuole un'indagine come quella che dice Taormina sulla... Ma io credo che ci vogliono due indagini, ce ne vuole una politica che magari un'adeguata commissione parlamentare potrà fare e anche una penale che riguardi l'eventuale presenza di responsabilità per una procurata epidemia. Queste sono due cose che la magistratura e le forze politiche rappresentate nel Parlamento sovrano hanno il diritto dovere di evocare. Ma secondo te alcuni virologi non hanno preso delle cantonate clamorose? Ci sono delle frasi, per carità, dette in un momento in cui non sembrava che potesse scoppiare quello che è successo adesso. Però sono gli stessi virologi che si piccano, no, della loro autorevolezza di conoscere cose che noi non sappiamo. Cioè, quello io che non... Io non amo maramaldeggiare, però basta aprire internet e leggere le cose che sono state dette nel mese di gennaio internet. E fino al 20 di febbraio per vedere che sono state dette una montagna di scienziati. Da parte di tutti, anche del tuo amico Salvini e della tua amica Meloni, che fece il video davanti al Colosseo. Vediamo, davanti al Colosseo la Meloni che disse: venite in Italia, qui si sta benissimo, non c'è nessun problema di pandemia. Io di scienziati credo di non averne detto. Le hanno dette tutte scempiaggini, tutti ma le hanno dette, insisto, perché il tuo, cioè, la, tua amica, la tua amica Meloni e il tuo amico Salvini, come no? Dimmi che non è vero, dimmi che non è vero. Ma dimmi che non è vero, ma dimmi che non è vero, ma dimmi che non è vero. passiamo a parlare di cose serie. Purtroppo, non so, purtroppo il povero Parenzo, che io capisco, deve fare questa parte in commedia, però in questo momento è ridicolo. Il povero Meluzzi, il Pope. Però scusami, il povero Pope, smascherato dall'altro Pope, peraltro. Il povero Pope. Alessandro, scusami un attimo, ti pare normale che il governo in questa situazione, abbiamo scoperto, è una piccola cosa per carità, però è vera, perché l'ha confermata l'ambasciata italiana in Tunisia, dia 50 milioni alla Tunisia, è normale secondo te o no? Oppure è grottesco, ridicolo, indecente, non ci sono altre parole per definirlo. Cioè nel senso che magari è un accordo, sicuramente è un accordo che non è che è nato ieri, però oggi l'ambasciata italiana a Tunisi ieri annunciava grottesco questa roba, l'altro ieri, quello che è. Ma non è aiutiamoli a casa loro, scusa, ma tu non sei uno di quelli dell'aiutiamoli a casa loro? È una cosa grottesca. Tu non sei uno di quelli dell'aiutiamoli a casa loro, scusa. Pope? Falso Pope, scusami, Pope. Non c'entra niente, non c'entra niente. Ma non è un Pope. Ma non è un Pope. No, non c'entra, lascia perdere Pope, dai. Io capisco che Parenzo, io capisco perché Parenzo è lì, viene da una famiglia autorevole. No, ma scusami Pope, ma lascia stare. Scusa Pope, Pope. Non è il momento di scherzare. Ma lascia perdere Pope. Ma non hai detto aiutiamoli a casa loro. Ma non è un Pope. Ma non è un Pope, che cazzo scherzi? Pope. Ma mica gli ho detto, stronzo, gli ho detto Pope. Allora, sei d'accordo? Vi offendete? Ma perché vi offendete? Ma l'ho chiamato Pope. Ma non sei un Pope. Ma ti ho chiamato Pope, mica stronzo. Ma scusa, però siete bizzarri. Ho detto Pope, gli ho detto. Perché vuoi riaprire le chiese, Alessandro? Perché dovrei... Quella mi sembra sbagliata come cosa. Ritengo che mentre i supermercati sono aperti, i tabaccai sono aperti, ci sono, come dire, affollamenti ovunque, non c'è nessuna ragione per la quale in una chiesa, che peraltro è sempre semideserta, qualcuno non possa andare a ginuflettersi di fronte al Santissimo Sacramento del Tabernacolo, punto. Ho capito, però Alessandro. Ma ritengo che possano essere aperte anche le sinagoghe e le moschee già lo sono, e quindi ritengo che il diritto alla libertà religiosa, le moschee non mi risulta, dovrebbe piacere, sia un sono elemento chiuse costituzionale della anche le scopre, sinagoghe sì. Purtroppo sono chiuse e concordo che per un problema di sanità pubblica, purtroppo con dolore dico che per la salute di tutti è giusto che anche le sinagoghe come le moschee e le chiese siano chiuse. Dopodiché se il signor Pope mi fa parlare gentilmente, ma poi non capisco perché si offende, l'ho chiamato Pope, dimmi. Essendo un Pope, vabbè, dai, vai avanti. Pope, poi anche questo dimostrare, dice di essere un Pope. Ricordo semplicemente che l'Organizzazione Mondiale della Sanità divulga la notizia il 10 gennaio, come ho detto prima. Ma dai, si sapeva. Della Cina, dai, che David, ha isolato, che ci il sia virus stata, no, ci corona. Sono state delle omissioni. L'OMS. Dopodiché la ricostruzione bizzarra. Ma non è bizzarra, errori ce ne sono ormai stati. Errori li hanno fatti tutti i governi, quello francese, quello inglese, quello tedesco, quello italiano, senza dubbio. La Meloni, Salvini, Conte, tutti hanno detto il contrario. E il suo contrario. E vabbè, allora tutti. Meluzzi mica sta difendendo qualcuno. No, perché siccome lui dice questo, il governo Conte. Chi debba difendere questo povero Pope? Scusami, Pope. Ma chi devi difendere tu, povero Pope? Che non sei neanche un Pope, no, che è stato sbugiardato dagli altri Pope, peraltro. Io non perché anche questa è un'altra cosa di cui dovremmo parlare. Ma non c'entra niente adesso. Lo dico io, che tristezza, caro Pope. Lo dico io. Ma che c'entra adesso? Stiamo parlando di un'altra cosa. Lo dico io. Stiamo parlando di un'altra cosa. Tristezza, lo dico. Di Parenzo devo dire che era grottesco l'altra sera vederlo in un programma televisivo, dopo aver gridato che erano allarmisti, che dava consigli a tutti anche con un certo tono allarmistico. È un povero uomo questo Parenzo, però pazienza, io lo conosco da tanti anni, da quando stava in Lombardia. Però anche il nostro amico Pope è peggiorato, la caratteristica di essere un ominicchio, ma va benissimo così. È peggiorato anche il nostro amico Pope, che è stato tutto nella sua vita, è stato di sinistra, è stato berlusconiano, ora è sovranista. Il nostro amico Pope è stato tutto nella sua vita, non c'entra niente, l'hai già detto 40 volte. Questo piccolo uomo, bisogna ricordarglielo, ma non ti annoi, scusa, ma come fai a essere stato socialista? Ma come hai fatto da socialista berlusconiano sovranista? Ma ricordiamolo la sua biografia. Alessandro, non voglio partecipare ad una farsa. Alessandro, dire, scusa, ma l'Italia soffre, ha fame, mentre la gente muore. Non sono qui per partecipare ad una farsa, Cruciani. Se vuoi che parliamo di governo, di malattia, di dramma degli italiani, di tragedia economica. Ma chi ha sbagliato in questo mese e mezzo? Ne parliamo. Chi ha sbagliato? No, chi ha sbagliato in questo mese e mezzo? Dimmelo. Si aveva la responsabilità del governo. Oh, cioè, ecco, diciamo. Il presidente del Consiglio, i ministri competenti, e quindi ne risponderanno di fronte alla storia. Punto. Il resto fa ridere. Ciao. Non ho altro da aggiungere. Ciao, arrivederci. Ciao. La Zanzara. Ci deve dare i soldi, non vogliamo le mascherine e medici del cazzo, vogliamo soldi. Bello che quando entri a far spesa ti guardano con questo sguardo terrorizzato, perché per loro noi siamo tutti dei possibili trasmettitori di virus. E ti guardano come dire: cazzo, ma non te ne stai a casa? Sei venuta anche oggi a rompere i coglioni? Sì, ci sto andando anche adesso. Vado a comprare un articolo. E quando sono in cassa, che la guarderò nei suoi occhi grandi, bovini e inespressivi, gli dirò: battimi questo litro di latte, stracciona. Non me ne frega un cazzo, c'ho il conto! Mi fate una mi date la prestito! C'ho il conto! No, mi fate parlare! Non me ne frega! Voi avete il mio conto, io voglio fare un debito! Voi ora mi date 50 euro! Io ho bisogno di 50 euro! Siamo quattro persone! La madre cardiopatica, non sto abbasso più le medicine! C'ho il conto qui, 50 euro! Me la potete dare? Io c'ho fame! Siamo 5 persone! Siamo 4 persone che hanno fame! Caro David, quello che succede nelle strade, lo vedi quello che succede? Credo che sia Bari questo qua. Bari, dove una signora che fa la, ha un piccolo esercizio commerciale, vive insieme alla madre. E la madre non ha ancora ricevuto la pensione. Ovviamente lei non ha i soldi, perché certo, gli unici soldi a disposizione di queste due signore, non come noi siamo dei privilegiati al confronto di queste persone, ma non diciamo c'è la verità, dubbio, dei privilegiati, non c'è dubbio, purtroppo. E la gente, certo, la gente ormai è quasi per strada in certe situazioni, in certi posti, quasi per strada. Cioè, capisci l'inerzia in queste ore? L'inerzia con l'Europa che dibatte, ancora devono mettersi d'accordo. Capisco che sono cose importanti, ma la gente fra un po' vorrà la liquidità. E certo che sono cose. Il denaro e contante. Non è che pensano molto agli accordi a Bruxelles. Capisci? Che no, sono importanti, per carità. Che dico, ma... per carità. Però tu che lo... Esatto, tu che lo sai lo devi dire. Tu che lo sai, sì, se no sei ma lo complice. Dico, ma lo se dico, qualcuno però commette degli qua... atti scellerati. Ma no, capito? Ma figurati. Tu che lo sai, questa era tu semplicemente sai come incazzata. Gira il mondo, questa sai era semplicemente come incazzata, questa qua in un supermercato. Ma tu hai il dovere di dirlo, anche tu hai il dovere di dirlo. A un certo magari punto, sono cose incomprensibili. Questa è andata in banca e sei incazzata, non era in un supermercato, è andata in banca. Poi a un certo punto è arrivato un signore che gli ha dato 50 euro. Lei dice: datemi 50 euro, le ha dato 50 euro. Attenzione. Poi oggi, per farti un esempio di quello che succede in certe zone in Sicilia, oggi circolava una telefonata, un WhatsApp a Paternò. Credo che i carabinieri abbiano individuato il responsabile di questo WhatsApp. È vero, però. No, te lo faccio ascoltare. Ovviamente pare che i carabinieri abbiano già individuato il responsabile. Bisogna vedere se era uno scherzo, ma sarebbe ancora peggio. Fosse uno scherzo, sarebbe peggio. Paternò, Sicilia, sentiamo. Comunque, buongiorno a tutti. A chi abbiamo da mannato lo ho aggiunto a tutti. Caro, se ne scudiamo che io sono in Giancuttiglio. Mano che vinciamo, sti cristiani, spiegamici perché siamo qua riuniti. Perché mi chiede bene andare al municipio, dopodiché come non una sola non aiuta, che non una sola c'è, non posso aiutare, ok? A me che essere pronte, che assaiamo in un supermercato rosso, più grosso che c'è a Paternò. Assaiamo per dire una puttana magari scaffale. Lo assaiamo. Allora che ci pare che siamo per dire più giocare, che non siamo, qua siamo per riunirci 1000 persone, appena siamo 1000, spostiamo, dice 9 e 10 al municipio, a maravare 1000 cristiani. e andiamo a scandare né da legge né di chi né da perché non sono nulla la legge, sono persone come noi, se testa non ce l'hanno, hanno una testa come noi. Perciò prima parliamo con Nino Naso che dice che è presente sempre, mai. Dopodiché come io non aiuto, dice non vi posso aiutare, a posto, comunque i cristiani siamo disperati, ma che facciamo? Stiamo andando nel supermercato e ne stiamo buttando magari che vado al muro. Ci sta mandando tutto. Automaticamente ne ci sta mandando tu, perché non ne sta aiutando, dice che non ne può aiutare. Perché tu puoi chiamare il governo, puoi chiamare a Musumeci, puoi chiamare a Conte, puoi chiamare a Quegheiro, basta. Perciò questo gruppo è fatto per chi sta entrando ora di capirlo perché siamo qua. Siamo qua. Picchiamo a stagliare prima al municipio. Stavo detto assoluta? Che prima sono io direttamente ai supermercati. Per non far arrivare a stasi, stiamo dicendo prima è uno comune. Come io non ho sua faccia, dice non fa posso aiutare. Anzi, ti viene, casta violando la legge, come di nascere, perché la prima cosa ci dirà a boccia come di nascere oggi. Giusto. Ci siamo noi suo papà e la mamma di nascere. E poi stiamo nascendo. Non ha a dire di nascere. Perché loro verranno i carabinieri, verranno chi in Pogliese, dice ma cavolo come vuoi si nascere? Ma perché con spacchio non avessi a dire di nascere? Guarda che non siete non mescato con niente. Ma mangiare, cara, non potevamo vedere mangiare fino all'ultimo 100 euro. E poi quando non ci sono più l'ultimo 100 euro, a poi vedere chiamiamo aiuto. Si dice a me mi hanno imparato una vita, prevenire è meglio che curare. Perciò, Caruso, siamo qua per fare questo, prima una rivolta contro il comune, come io non la chiamare, cioè Caruso non posso aiutare, a posto, sappi che noi da questo momento in poi siamo cavi sera calata, noi stiamo andando non sul mercato e ne buttiamo tutto cose, e non bavamo niente. Ne facciamo vedere in carelli spisallone, andiamo a fare abbastanza poi il fratello Marcio, no, in carelli spisallone, a oggi nel supermercato, domani nel naucio. Ripeto, l'autore del messaggio sarebbe stato individuato dai carabinieri della compagnia di Paternò. Allora, due considerazioni. La prima, sì, se sì, il messaggio è vero, questa persona va individuata e fermata e arrestata. Se il messaggio è falso, questa persona va individuata, fermata ed arrestata. No, ma non c'è dubbio. No, quindi questo non c'è in questo caso. No, ma infatti non c'è, io l'ho messo in onda, no? Per questo, cioè, anche se è incomprensibile. Ma questo è molto serio, no? Questo l'ho capito, certo. Ma è molto seria la questione. Cioè, se è vero va individuato e arrestato. Se è falso, ancora peggio. va individuato e arrestato. No, ma paradossalmente, se è falso, fine, è ancora peggio. Perché se è vero, certo, è un coglione che ha fatto circolare questa roba qua. Certo, e dunque è un finto rivoltoso, diciamo, no? Perché quelli veri non è che fanno i messaggi su WhatsApp. So. No, ma finto nel senso che è un coglione. Perché uno che vuole fare veramente una cosa di questo tipo non è che manda i WhatsApp in giro. Se è finto, ancora peggio, perché chiaramente quando circola, in questo periodo circola qualsiasi cosa, si incita alla rivolta. Ora, sia chiaro, quando uno dice che la gente è incazzata, tanto per rispondere ancora all'ascoltatore di prima che dice non si può dire la gente è incazzata, no? Ecco, questo è l'esempio. Cioè, la gente è veramente incazzata. Non è che dico che sono dalla parte della gente. Io registro. Ma no, io sono dalla parte. Registro che la gente qual è incazzata. Quello che sta, su cosa sta succedendo. E dunque, ma non quando il presidente del Consiglio dice che possiamo passare questo periodo in clausura e come un periodo di meditazione su come stiamo al mondo, quella mi pare una cazzata. Credo che la gente non condivida. Adesso quello si incazza e dice: no, non puoi dire la gente. Lo dico perché in questo caso credo che la maggior parte delle persone non gliene frega un cazzo di meditare. Giorgio, provincia di Ascoli, vai Giorgio. In un supermercato che vende alimentari e di conseguenza sono, tra virgolette, costretto a lavorare, ma sono spaventatissimo. E in questo periodo pagherei per non stare al lavoro e stare nella sicurezza delle quattro mura di casa. Sì, perciò sì, volevo dire a tutti gli ascoltatori che si lamentano di questa costrizione, di questa, diciamo, chiusura forzata, di cambiare leggermente il loro punto di vista e capire che è tutto fatto per il loro bene e il bene di chi gli sta intorno. Perciò se mi si concede una piccola cattiveria a quelli che non vogliono cambiare il loro pensiero, io auguro un leggerissimo raffreddore, una cosa microscopica, due linee di febbre, giusto perché si possano spaventare e capire cosa c'è intorno a loro. Com'è la tua vita, Giorgio? Hai paura quando vai al supermercato? Molta, davvero tanta. Come sei, per sei me pro... per chi mi avvicino dentro casa. Sei protetto, cioè hai tutte le protezioni del caso, sì, come lavori? Con i guanti, senza guanti? Non so se sia importante, non so se sia importante stare con i guanti, alcuni dicono di sì, altri di no, ma insomma dipende mi per dà qua. Sicuramente mi dà una sicurezza e forse la dà anche a chi mi è davanti. Io sono protettissimo, l'azienda mi ha fornito tutte le protezioni possibili e io ne ho prese anche di, meno tra virgolette, male, migliori. Però comunque preferirei, se fosse possibile, io non stare, cioè, o perlomeno limitare al massimo i contatti con le persone, ma perché capisco che è per me. Scusami Giorgio, ma i tuoi contatti al supermercato, bravo, diciamo, con i clienti, come si svolgono? Cioè c'è un minimo di protezione, di distanza, oppure sì, purtroppo? Assolutamente sì, io mi sento libero di invitare alla distanza chi non si rende conto, non lo metto a criticare, però chi non si rende conto che bisogna tenere la distanza, li invito alla distanza e comunque io me la prendo. Però devo dire che buona parte delle persone sembrano aver recepito, quindi anche loro a loro volta sono protette da me e loro proteggono ovviamente da loro stessi gli altri. C'è una piccola percentuale di spavaldi che però ovviamente fanno un po' come vogliono e magari dietro un piccolo invito a una distanza si lamentano e tu devi stare lì a dire guarda è meglio tenere le distanze e magari questi si incazzano pure. Sì, qualcuno ovviamente reagisce male, qualcuno. Ma comunque capisce, io guarda, ti capisco perché in questo momento andare al supermercato, uno dice: ma anche al supermercato si rischia, uno pensa ai clienti dei supermercati. Ma pensate, ragazzi, a tutti gli addetti dei supermercati, alcuni sono malati, certo, altri sono addirittura morti. Per cui io capisco Giorgio, perché uscire ogni mattina per andare in un luogo che per definizione è affollato e in questo periodo è ancora più affollato, è ancora più affollato perché certo, ragazzi, i supermercati non sono più affollati rispetto alle situazioni normali. Posso permettermi di dire anche una piccola cosa a Gottardo, se è presente, che non c'è però starà ascoltando, no, sicuramente c'è, andato, dico, a Gottardo, se non ti danno fastidio le persone che in macchina si mettono la mascherina da sole anche se effettivamente non c'è nessuna protezione, non c'è nessun pericolo, sì, non le criticare, loro si sentono più sicure, infatti, sono quelle persone, infatti, che sicuramente non porteranno il contagio perché stanno scagate, sono spaventate, di conseguenza loro faranno di allora, tutto per proteggere non loro i governanti, hai ragione Giorgio, non i governanti che non devono essere spaventati, ma le persone se sono spaventate, in questo caso è un bene, essere sì, spaventati è assolutamente una cosa positiva in questo caso. È avere quello spavento, avere quello spavento, lo spavento ti salva la vita. Spesso salva la vita. Ciao Giorgio, ciao. Uno mi scrive: Cruciani, hai ragione, la gente è in fermento, siamo a livelli di allarme, manca poco alla rivolta popolare. È una cosa, questo non credo, però alcune cose addirittura leggo da qualche parte oggi che i servizi segreti hanno segnalato al sud una situazione esplosiva. Adesso ragazzi, prendiamoci, quello che abbiamo letto è la criminalità organizzata, però che può darsi. Prendiamoci qualche secondo, perché è successa una cosa, sicuramente tu lo sai caro David, perché per i tuoi rapporti istituzionali, e il Quirinale ha caricato un messaggio di Mattarella con una parte di fuori onda, una parte che doveva essere tagliata, molto bello, molto umano, devo dire la verità, e che io non vorrei adesso che venisse in qualche modo tolta, anzi è un momento molto umano di Mattarella, il quale parla con un tale Giovanni che credo che sia il suo portavoce o qualcuno del suo staff, e gli dice: beh, sono spettinato, ma sentite, andate in onda, e alcuni telegiornali hanno preso questo, credo dai siti istituzionali o dai canali istituzionali della Quirinale, e l'hanno mandato in onda per accorgersi all'improvviso che c'era una parte di fuori onda, e dunque rimediando in corso d'opera, straordinario. Senti. No, scusi, avevo un po' di... Come? Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi... Va bene, meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente... Care concittadine, aspetti. Beh, straordinario. No, però invece un momento anche molto bello, perché il fatto che anche il capo dello Stato, di che uno immagina, no, dice avrà 50.000 barbie, il populismo cosa direbbe? Eccolo, no, lì. Invece no, vedi, dice non vado da... No, ma lo dico con la sincerità del caso, che lui dice: vedi, non sono andato dal barbiere neanch'io, quindi il capo dello Stato anche lui non è che ha i barbieri che vanno a tagliargli i capelli lì al Quirinale, questo è il tema. La Zanzara. su un articolo di Libero di oggi c'è la classifica dei divieti e titola Friulani i più ligi alle regole. E secondo voi qual è la regione in cui ci sono più trasgressori? Buongiorno Parenzo, quando tu non sai quello di cui stai parlando dovresti avere il buon senso e stare zitto. Questo dimostra sempre che sei un coglione. In merito al sindaco De Luca, quello che lui ha detto è preciso alla lettera. Non è vero un cazzo che tutte le persone erano in regola. Non è vero un cazzo. Infatti di quelli che sono passati, di quei pochi che hanno fatto passare perché li hanno bloccati a Villa, 10 persone sono state denunciate. Oggi ancora ci sono 110 persone ospiti dell'Hotel Europa in quarantena, testa di cazzo, 110 persone fra quelli che hanno traghettato il giorno dopo. Quindi questo dimostra che tu sei un testa di cazzo. Stai zitto e non dire stronzate. Ragazzi, anche a me dopo un po' la situazione Cateno comincia. Cateno De Luca è una irresponsabile, no, che Cateno ha attaccato De Luca è il ministro dell'interno. Cateno De Luca. Irresponsabile, che ha usato parole vergognose nei confronti della figura del ministro dell'interno. Parolacce, cose indegne per parolacce? Un primo cittadino. Indegne, indegne, indegne. Allora, voglio salutare. Mi hanno mandato la foto di una persona intubata. Credo che sia Lorenzo, si chiama. Non so che ospedale, Lorenzo o Roberto, non so, credo Roberto, Lorenzo, vabbè, insomma lui sa, lui sa, no, perché mi ha mandato un messaggio via mail, non ho capito se quello intubato è Roberto o Lorenzo, ma fa lo stesso chiunque tu sia, intubato, perché vedo qua un'immagine, credo in un ospedale che potrebbe essere Verona, lo saluto, ti abbraccio, grande ascoltatore della Zanzara. Siamo qui a cercare di rallegrarti e infatti... o a cercare di strapparti un sorriso oppure un'incazzatura, non so, dipende dalla situazione. Adesso facciamo un collegamento speciale. Li abbiamo sentiti, credo, un paio di mesi fa, se non sbaglio, in una situazione molto diversa. Era all'inizio, era il 20 gennaio, se non sbaglio, il 18-20 gennaio, una cosa di questo tipo, quando la situazione ancora non era chiara, ancora non era chiara, e potevamo parlare tranquillamente di cose che riguardano il porno. Però noi stiamo iniziando una grande inchiesta, come stanno trascorrendo questa situazione di clausura le star del porno, e sicuramente loro sono la coppia più in voga in questo momento, si potrebbe dire la coppia che forse è meno danneggiata, perché i set porno, caro Parenzo, come sai, sono chiusi, no? Come è normale che sia, sì, certo. Loro come invece sai, essendo come tutto il cinema, il teatro, come tutto quello che è contatto umano, come tutto detto, quello che è contatto, certo, umano, assolutamente. Loro invece hanno un privilegio, è incredibile, ma è così, perché stanno insieme, pensate, girano praticamente a casa e dunque sono privilegiati. In collegamento, credo, esatto, non si è interrotta, credo, la filiera, esatto, la non, filiera si è interrotta, la in collegamento, pensate, credo, da Tenerife, insomma dalle Canarie, dove stanno, ah, Dani Camori, eccola qui, un abbraccio. Ciao Giuseppe, ciao Dani. Ciao Danica. Buonasera signora. E il compagno barra marito, non mi ricordo più, credo solo compagno, perché il matrimonio non so se è una loro roba. Steve Mori, eccoci qua, caro Steve, come stai? 13 anni, signor Parenzi, buonasera. Come stai, Steve? Buonasera, come stai? Caro, buonasera. Bene. Parenzo, tutto non Parenzo, la tua risata, lo diceva, la tua risata, Parenzo, mi mette allegria, Parenzo, innanzitutto, perché tu ridi sempre, non so come cazzo fai, ridi sempre. Bisogna sorridere, la situazione è quella che è, bisogna cercare di mantenere almeno il sorriso. No, ma assolutamente, però allora voi state continuando a lavorare sostanzialmente, no? Cioè, diciamo la verità, c'è un consumo di porno online in questo momento superiore. Da un certo punto di vista siete dei privilegiati. Innanzitutto state a Tenerife, non so come sia la situazione a Tenerife di quelli infettati, eccetera, eccetera. In Spagna attualmente siamo 700 infetti. No. Infetti, però alle sostanzialmente Canarie. La situazione è alle molto Canarie, contenuta. Sì, alle Canarie. Canarie, sì. Tutto in totale alle Canarie. Avete paura? Però, hai paura, Danica? Hai paura? Sì, assolutamente abbiamo paura, anche perché seguiamo già la situazione da diversi mesi, da gennaio, inizio gennaio avevamo visto la Cina e sapevamo, ci siamo un po' informati, sapevamo di questo virus che era stato creato in laboratorio, eccetera. Beh no, questo ancora non è sicuro, ma non ci aspettavamo, comunque sì, non è sicuro. Cioè, non ci aspettavamo comunque che arrivasse così in fretta in Europa, magari ci aspettavamo qualche mese in più prima che si propagasse in questa maniera. Senti una cosa, Danica, ma sbaglio quando dico che voi siete privilegiati, nel senso che l'altro giorno pure avete mandato in giro una scena che avete fatto, perché state continuando a trombare, perché state a casa e dunque voi, per voi trombare significa sostanzialmente lavorare, o no? Allora, per certi versi, molti dei nostri video non li facciamo la settimana stessa in cui vengono pubblicati, quindi ci sono ancora dei video mese fa. Però sì, assolutamente ci consideriamo dei privilegiati, perché per noi è cambiato poco, a parte il rischio di mortalità se usciamo fuori di casa, a parte alcune regole basilari giornaliere da seguire, a parte il fatto che non però voi state barricati a casa, lavorate a casa, sì, state insieme, esatto. Non avete bisogno di altri attori porno, di altre persone che vi circondano, è una situazione privilegiata al massimo. Se la situazione finisse nell'arco di 1 o 2 mesi, assolutamente se ne usciremmo, diciamo, saremmo quelli meno danneggiati. Ma di sicuramente tutti, avete anche maggiori visualizzazioni in questo periodo, giusto Steve? Lo chiedo sì, a Steve. Sì, in questo periodo sì. È aumentato quasi del 20%, diremmo anche del 30%. La cosa buona è che anzi tutto il lavoro che noi stiamo eseguendo, considera che tutti i video che vengono venduti nel nostro Model Lab di Pornhub, considera che tutti quegli introiti verranno devoluti, e vengono devoluti sia a Sarrasale di Milano, anche per questa è positivo, premium. Questo è bello, sì. Sì, quindi considera, noi i nostri guadagni rimarranno intoccati. Quindi tutto quello che la piattaforma riuscirà a monetizzare ufficialmente verrà donato in beneficenza. Quindi senti un attimo, com'è il contributo? Certo. Dal punto di vista psicologico, com'è scopare con l'idea che fuori c'è quello che c'è? Cioè, dal punto è più difficile o no? No, è difficile in certi momenti, perché. Ma però io ho visto un video da Italia. Sempre in Italia, quindi materialmente io seguo le notizie. Abbiamo ma i tuoi genitori? I vostri genitori? Attualmente tutto bene, se stanno a casa, però anche in Sicilia, loro sono in quarantena, rispetto a sì, loro sono in Sicilia, ovviamente rispettano tutte le varie norme. Ma siete tornati un po' a riallacciare i fili, no, con i vostri genitori in questo periodo? Forse il coronavirus vi ha avvicinato alle famiglie, paradossalmente, meno no? Meno male. No, vabbè, paradossalmente ci siamo sempre sentiti, ora ovviamente ci sentiamo ancora più spesso, anche 2 volte al giorno, anche per sapere com'è la situazione, come si evolve il tutto, come stanno. Senti, Danica, ma trombare perché avete fatto delle scene in quest'ultimo mese, cioè trombare com'è in questo periodo? Dai, non mi dire, ho visto una scena, non mi sembrava così, diciamo, non mi sembravi preoccupata, insomma. No, vabbè, mi distrago. Ho visto una scena anale. Per cui siamo stati premiati anche il primo anno dei Pornhub Awards. Sì, assolutamente, ad un certo punto devi distrarti, altrimenti veramente ci stai male. Quindi comunque abbiamo trovato il modo di distrarci, altrimenti veramente era un disastro. Ma il business per alcuni si ferma, per altri non si ferma. Una coppia mi pare molto, no, molto unita, una coppia allegra. No, ci sono persone, ragazzi, la realtà del mondo è così, ci sono persone che usciranno da questa vicenda, diciamo, massacrati, magari anche noi, non lo so, e non c'è dubbio, il mondo è così, ci sono persone che al momento, perché poi non si sa quello che può succedere, naturalmente, magari crollano anche le visualizzazioni su Pornhub, non credo, perché in questo periodo stanno aumentando perché le persone sono dentro casa, se è a casa appunto con la moglie, con i figli, ma che cosa fa su? Poi io non riesco veramente a capire. Ma come trova? A parte che ci sono una marea di single, poi ci sono le stanze, uno si rifugia nella stanza, un marito, eccetera. Ecco, single, e poi voglio dire, ci sono un sacco di coppie che ci guardano insieme, voglio dire, figli ma magari giocano nel piano di sotto. Ma non diciamo porcherie, ma come no? Ma certo. Ma non diciamo porcherie, io mi guardo le serie su Amazon Hunters con mia moglie, diciamo delle porcherie per forza. Ma cosa vuol dire? Ma io preferisco ogni tanto guardarmi una bella scena e Steve e Danica sono due artisti, ma che c'entrano? La cosa non è incompatibile. uno deve stare Hunters, magari 10 ore a casa. Io mi sono guardato la serie Hunters. Hunters, sì, ho capito. Io invece mi guardo il volete, pisello senti, di Steve Mori che entra dentro Danica. Potrò o no? Potrò o no? Evviva. Io dico solo evviva. Fate quello che volete. Evviva. Se vuoi guardare quei due signori che fanno le loro cose, evviva. Che ti devo, mica ti voglio multare. Ti dico evviva. Ci sono persone che mi scrivono: oddio, Parenzo, noi si guardano un fiorentino, cioè noi si guardano i porno insieme. Cioè una coppia di ma persone. Ma chi è questo qui? Di il nome e cognome. Ma no, è una cosa fantastica, secondo me. Ma certo, ma scusa, praticamente voi in questo momento state facendo un grande regalo agli italiani che stanno barricati sì, dentro casa, diciamolo. Sì, grazie, un sacco di persone ci dicono anche state tenendo compagnia, fateci forza. Cioè vi scrivono dicendo grazie di esistere, diciamo grazie di continuare a contribuire. Esatto, e tra l'altro abbiamo anche pubblicato un video in italiano. Avete pubblicato, scusa, che dicevi Danica? Dicevo, abbiamo pubblicato appositamente un video in italiano nella prima settimana di quarantena dell'Italia ufficiale. Mica ci saranno dei dialoghi, ma chi se ne frega della lingua, scusa. Vabbè, qualche dialogo c'è all'inizio. Ma c'è qualche dialogo, appunto. Poi mi sembra, le parole chiave mi sembrano tutte internazionali, diciamo, no? Ma scusa, ma perché vuoi negare... Ma dai, le abbiamo fatte in italiano, ma che dialoghi ci sono? Ma di chi parliamo, dai? Ma invece la gente, allora... Like this, ma ce l'abbiamo l'audio? L'audio dell'ultimo porno, mandiamo l'audio solo dell'ultimo porno perché voglio capire se è una cosa vera oppure c'è una forzatura. Lo voglio capire ma da Danica. Ci sono dei dialoghi, no? Ma in questo caso non c'è parlate? Dialogo, è un piccolo estratto. Aspetta, aspetta, appunto, vai. Appunto. Non c'è. Ecco, voglio capire. Senti, gente che ha l'asma. Gente con asma. Questo... Gente con asma, sempre. Ma non è... Scusami, questo non è un dialogo. Questo è un piccolo estratto che ho preso ieri da un lancio vostro. Però. Che cosa vuoi tradurre? No, quando la cosa dite, che voglio capire. Li potete trovare anche in lingua. Ma che lingua? È una unica lingua lì, mi pare. Che discorsi sono? Ma perché ci sono dei dialoghi prima, dopo, durante? Spiegaglielo tu, Danica. Ma totalmente ininfluenti, credo, rispetto al Danica, spiegaglielo tu. Glielo due, non capisci. Ma no, ma creano un pochino l'atmosfera all'inizio. Per esempio, proprio l'ultimo carino era San Valentino. Cioè? Avevo letto un memes e quindi io ho detto: ho letto un memes dove dicono non è San Valentino se non ti fa un. Un pompino? E voilà. Esatto. Molto semplice, voilà. Molto. E voilà. Allora, dialogo, una sceneggiatura ricercata. Però voglio dire una cosa, quei gemiti, diciamo la verità, Steve, Danica, sono tutti veri oppure alla fine si finge un po'? Anche voi fingete un po', però voglio la sincerità, dai Danica, dimmelo te. In verità io faccio veramente fatica a stare in silenzio di notte quando invece non ci sono le videocamere a riprenderci. Voi scopate anche senza, videocamere? Sì, ovviamente. Ma scusa, ma quanto cazzo riuscite? Cioè, avete fatto una media di quante volte siete riusciti in una giornata a trombare? Cioè tu quanti? Sì, veramente. Allora, noi abbiamo già scopato per 4 vite, secondo me. Ecco, no, ma vi ricordate un giorno in cui avete fatto, che ne so, 6-7? Perché poi è Steve soprattutto che deve rispondere in questo caso, perché Danica magari potrebbe all'infinito. È Steve che magari, no? Quante, hai fatto un calcolo? Il massimo per me è stato 6. 6 con le 6, di cui quante, quante con la telecamera e quante diciamo per voglia? No, tutto senza telecamera, eravamo proprio giovani, era ancora non facevamo tutto senza lavoro. Tutto senza telecamera. Comunque, è vero o no quella, voglio capire da Steve, Danica dice di no, ma insomma, che è tutto vero, Steve, è tutto Steve vero. O Gongo, quella, Steve o Gongo, quella, no, quello è un altro. Quello è un altro, quei gemiti lì sono tutti veri oppure fingete un po'? No, sono tutti veri, anzi a volte faccio piano, fai silenzio, si sente, quindi considera qua siamo all'inverso, molte volte io devo metterla a tacere in qualche modo. Ciao ragazzi, per la gioia degli italiani continuano ancora a lavorare, Steve e Danica, ciao amici miei, ciao. La Zanzara. Va bene lo squasso di pugnette, però adesso è squasso di pugnetti. Sì, perché vita familiare, la moglie distante un metro, due metri, gli amanti fottuti, non vanno più in casa degli altri, un telefono, non vanno più clandestinamente, impossibile. Chi ha un amore appena nato, non figurati se, anche se ha la ragazza o il ragazzo giovane, non, quindi sesso fottuto, il mondo della prostituzione fottuto, no? Cioè, chi è che va con una prostituta? Cioè, i magnaci fottuti, quindi alla fine, vedete, venite dalla mia parte, alla fine squassi di pugnette per tutti. Eh sì, è emergenza pugnette. Giorgio Comaschi, credo, straordinario. Allora, vi faccio risentire il messaggio, cioè il fuori onda che qualcuno ha mandato in onda, credo al TG4, altri di Mattarella, perché è un pezzo straordinario di realtà, come direbbe Freccero, no? La realtà. Che è uno di noi. No, fa capire che è esattamente uno, vabbè, di noi. Uno di noi, non esageriamo, però è, beh, sì, però è, no, è una cosa umana, non molto vado umana. Dal parrucchiere. No, perché uno può immaginare che il capo dello Stato c'ha qualunque cosa. No, invece però non ha il parrucchiere, secondo me, che gli va nemmeno a fare uno spin doctor, nemmeno uno spin doctor di quelli dei più geniali avrebbe potuto umanizzare la figura di Mattarella in questo modo. Senti. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. No, scusi, avevo un po' di. Come? Perfetto. Giovanni, non vado al barbiere neanche io, quindi. No, perché era proprio. Va bene, meglio, sì. Questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine. No, aspetti, no. Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini. Le linee. Oh, signore, non reggo, non riesco a leggere le linee alimentari. Ricominciamo, mi dispiace. Mai successo. Giovanni, per piacere, però scegli una posizione, poi, perché se ti muovi io seguo e mi distraggo. Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini, di. Beh, straordinario. Io spero che Mattarella non se la prenda con chi ha mandato per sbaglio naturalmente il pezzo integrale, perché in realtà non c'è nulla di strano. E certo, la comunicazione poi è la comunicazione, ma secondo me ne esce paradossalmente un Mattarella molto più umano rispetto no, all'immagine. Ma la battuta sui capelli, quando dice certo, non vado neanch'io dal parrucchiere, come Giovanni, tutti gli italiani. Giovanni Grasso, che è il capo ufficio stampa e il portavoce della. Ti dà l'idea della persona. E passiamo d'amblè da Mattarella a chiamare Fabrizio Bracconeri, caro Parenzo. A chiamare il signor Bracconeri. Ma non si può fare, non per l'accostamento, perché non si dovrebbe chiamare mai Bracconeri. No, solo per no, quello, ma non puoi dire così. Chiamare, dai, perché, su, ma Bracconeri devi è uno. Chiamare Bracconeri? Perché cosa Bracconeri è un uomo, è una persona comune come tutti noi. È una persona. Comune, una persona sì, che. No! Come tutti noi, le persone comuni, ma non c'entra Ricchi, persona non sono che, così maleducate che sente volgari. Anche, sente non anche è il una, popolo. È una sente persona. La. Ma sente anche, ma cosa dice? Ma cosa dice? Pronto? Fabri? Sì, sono Cruciani, come va? Bene. Com'è? Sei incazzato pure te? Da morire. Ma con chi sei incazzato? Con questi pazzi scatenati del governo. Che hanno fatto? Veramente. Perché questi non sono mai scappati da casa, questi sono stati cacciati da casa, capito? Che sono? Perché uno che scappa di casa deve avere almeno un minimo di cognizione che scappando dovrà organizzarsi la vita, perché non dipenderà più dalla famiglia. E invece? Questi sono stati cacciati da casa, cioè neanche la famiglia li ha voluti assistere per quanto sottimenti. Insomma, siamo riusciti a metterli al governo e ho capito che tra tutti i componenti del governo forse il meno peggio è l'incapace di Conte. Pensa che sono arrivato a capire. Pensi che ci possa essere la gente per strada, che possa esserci una ribellione, non arrivano i soldi? cioè fanno delle cose, hanno messo 25 miliardi più 25 che non si sa che cazzo hanno fatto quei primi 25. Qui non hanno capito, tra tre giorni la gente scende per strada e gli sfonda i negozi, non si rendono conto di quello ma che stanno facendo. Beh, ma questo però non ha torto, non diciamo corbelle, ma speriamo di no. Ma che dice? Non ma ha torto Bracconeri, sì, l'ho visto, ma lo so, criminali, certo, l'ho visto, certo. Saranno criminali, saranno come ti pare, invece il decreto è stato fatto tre giorni fa, ancora non si sa che fine faranno. Lo devono, soldi. Devono darli subito i soldi, subito devono darli, non c'è ombra di dubbio, subito. Mi dici delle persone che tu conosci che abbiano già preso i soldi che loro hanno stanziato? Nessuno, perché i 600 euro che danno le partite IVA, in 600, una tantum vuol dire una volta sola e poi basta. Io ho sentito il commerciante, ma questo dice, no, forse lunedì arriverà, come lunedì? Ma hanno stato, no, forse lunedì, cioè questi ci stanno prendendo per il culo, andrebbero presi a calci delle palle, e questo succede perché in Italia siamo dei coglioni. E l'Europa? Ma io sono sempre stato contrario all'Europa, l'ho sempre odiata, e tu lo sai, io ho sempre odiato l'Europa, e questo cosa dimostra vuol dire quanto sono l'Europa? Merda cosa quelli dell'Europa. Gli stati, non l'Europa in quanto Europa, l'egoismo dei governi, non l'Europa. È uguale, che vuol dire? È uguale, che vuol dire? No, non è uguale in alcun modo, invece, assolutamente. L'Europa che funziona è quella della... No, sì, l'Europa che funziona è quella della Commissione e del Parlamento, poi c'è l'Europa dei governi, che è quella che blocca. Scusami Fabri, voglio capire una cosa da te, che sei come uno che controlla la situazione lì sul territorio. Ma chi controlla? Ma che territorio? Ma chi controlla? Sa benissimo come... Cazzo, ma che dici? No, sì, totalmente, fa parlare un uomo intelligente. Ma perché chi controlla? No. Cioè, lo chiami come fosse un prefetto, ma che dici? Tiene, sai, il polso della terza C. No, ma è uno che ha una famiglia con dei problemi anche. È uno che sente il polso della situazione. Ma quale polso? Ma quale polso? Che vuoi sapere? Vuoi sapere come sta la gente? La gente è pronta a sfasciare tutto. Se non arrivano i soldi lunedì, la gente martedì nei negozi. E tu vedrai che non è come ti dico io. Ma questo è pazzo, ma come si fa a dire una roba simile? Pazzo. Ma basta che vai su Facebook. Ma come che fai a dire una follia simile? È ovvio che i soldi ci devono arrivare subito. Ma come fai ma a dire allora la gente sfonderà ti tutto? Dico. Ma ecco l'altro, Ma la gente è incazzata. Tu mi fai ridere perché tu pensa Piera, non pensa a quella vota. C'è l'80% della gente che sta alla fame. Non vi rendete conto di che cazzo dite? Perché stare al culo a caldo è facile. Ma gente che c'ha un negozio che guadagna 50 euro al giorno e gliel'ha chiuso da 20 giorni e domani c'ha la segni che arriva una volta. Ma su questo non c'è dubbio. Ma c'ha ragione, dai. C'ha ragione. Ma che cazzo le paga? Ma un conto è dire che devono arrivare subito i soldi. Ma lascialo, lasciagli dipingere. E dire alle banche di dare credito alle famiglie. Facciamo un esperimento lunedì, chiamiamo un banca, faccia qualsiasi e chiediamo 2.000 euro in prestito, se ci danno col cazzo. No, ma dai, hai ragione Fabrizio, bisogna far arrivare i soldi alla gente. Però lui è un indicatore chiaro, perché non è uno qua. L'indicatore della follia umana, quale non è ma mai stato un indicatore di nulla. Davide, ma che cazzo dici, Davide? Ma allora, come fa Cruciani a dire è un indicatore? Perché conosce i problemi, perché conosce i problemi della gente, Bracconeri, li conosce. Ma lo sappiamo li conosce. Tutti quello che sta succedendo in queste ore, Bracconeri. Non lo sappiamo tutti, che ne sappiamo noi? Casino, gli piace il casino. Io c'ho la mia donna di servizio che veniva a lavorare qua, la mia mamma che veniva a fare pulizie, che campava con i 30 euro al giorno, 40 euro che gli davamo. Certo. Oggi non che cazzo fa, mi telefona tutte le settimane e me lo fa la ricarica post-pay, perché non può venire manco a pulirmi. Capisci com'è con la situazione? Senti, non l'hai capito. E gli sbarchi, Fabrizio, e gli sbarchi degli immigrati? Guarda, su quest'altra cosa io sono uno stato dei dementi, può chiudere tutto, chiudiamo le fabbriche, chiudiamo i compiti e fanno entrare e sbarche. No, veramente non lo so. Quando te lo dicevo, io i soldi miei voglio dare ai disabili, ai pensionati, eccoli, avevamo dati ai clandestini e mo se l'abbiamo un bel culo, diciamo le mascherine, la gente diceva di dottori, questi qui che vanno a fare tanti fenomeni in televisione, e ieri se ne era una con te, il dottor Pigliasco, che fino a 3 settimane fa diceva che ne era un cazzo, le mascherine non servivano, e io sostenevo che le mascherine erano un buon senso per difendere io da te, tu da me, e non lo porta a tutti, dicevano di no perché non c'erano, perché lo sapevano che se stavano stavano nella merda. Troppi soldi agli immigrati. Non c'entra niente con le mascherine. Le mascherine purtroppo non le produciamo più in Italia perché alcune aziende l'hanno ritenuto poco conveniente e quindi dobbiamo purtroppo comprarle all'estero. Ma Bracconeri sta dicendo un'altra cosa. Bracconeri sta dicendo, è una frase che non si può dire. Bracconeri sta dicendo, chi se ne frega di quel che dice Bracconeri. Se noi non avessimo dato i soldi ai clandestini, oggi c'erano quei 5 miliardi. Ma non c'entra nulla. Davide, ma per favore, ieri hanno deliberato 50 milioni di euro da Tunisia, alle industrie tunisine, alle aziende tunisine. Questi stanno fuori dal mondo! Questi stanno fuori dal mondo! Comunque, la situazione è grave, la gente è incazzata. Bracconeri ce lo ha raccontato chiaramente. E come la confrontarsi gente con... Non puoi dire Bracconeri ce l'ha raccontato, è come parlare con Peppa Pig! Ma che cazzo dici, Davide, che il mondo sta tutto come ma stiamo che io e te, che potevo mangiare ma tutti i giorni. Io non penso assolutamente questo, ma dico che dici delle cose che sono molto molto pericolose. Il disagio c'è ed esiste. A Palermo hanno dato l'assalto ad alcuni supermercati, lo abbiamo letto tutti purtroppo. Lo abbiamo letto tutti. Ma a te piacerebbe l'assalto? L'assalto ti piacerebbe o no? L'assalto ai negozi? No, perché qualcuno si approfitta pure di questa situazione. E l'assalto al governo? L'assalto al governo. Preferisco parlare, ma se vedo che parlo col muro, prima o poi al muro io risponato con un bocca giusto muro. Siccome questi si sono messi col culo al caldo, è facile dire state a casa. Io c'ho una casa di 250 metri e 7.000 metri di terra. Ma chi sta dentro 40 metri quadrati? Mi dici come cazzo fa? Ciao, questo Fabri. È importante. Ciao. Ciao, ciao. Antonio da Padova, avanti tutta ragazzi, avanti tutta, siamo sempre qui da questo bunker, No, questo maledetto coronavirus, questa nazione sta dando un'opportunità e non capisco come mai nessuno dica niente, cioè? Al Vaticano che ha 4.000 miliardi di euro in immobili, liquidità nello IOR, l'unica banca attiva al mondo, e il Papa, vergoglio, il solo, calma, che ha fatto? Potrebbe, tranquillamente. Ci piacciono gli urre torbi, ci piacciono gli appelli, ma vogliamo un'azione concreta. Voi gli sghei del Vaticano. Per riabilitare la Chiesa, dopo quello che è successo, la scandalo pedofilia è un'occasione fantastica per la Chiesa di riabilitarsi. E allora staccare un bel assegnino a 6 zeri e darlo alla sanità, e darlo agli italiani. Beh, l'altro giorno il Papa ha donato, credo, dei ventilatori, una cosa di questo tipo, credo. No, lascia stare i ventilatori. Poi c'è tutto quello che la Chiesa fa sui territori. Però è vero che vorremmo qualcosa di più. Tu essere d'accordo con me, perché vogliamo e si dovrebbe intervenire, entrare nello Stato domani stesso. Dottor Conte si presenta alle porte del Vaticano, si mette in ginocchio, anziché andare a pregare alla Lagarde, che senza l'Unione, senza la solidarietà dell'Unione Europea non si arriva a niente. La Repubblica Italiana è condannata. Vabbè Antonio, che volevi dire? Che il Papa deve cacciare più soldi, ho capito, ciao. Prendi 10 miliardi che hai nelle casse, compra le mascherine, compra gli autorespiratori, Papa Francesco, dagli al popolo, dagli ai fedeli, dagli ai poveri cristi, salva le vite, basta con le chiacchiere, Papa Francesco, hai capito? Delle tue benedizioni non me ne faccio nulla, non se ne fanno nulla i bambini che stanno morendo, non se ne fanno nulla gli ammalati, quelli che stanno, i medici che stanno morendo, non se ne fanno nulla! Il grande Alfonso, artista sardo, ma questo, ma grande incazzato niente, ma cosa, nero l'ospedale nero. Bambin Gesù, chi l'ha fatto? Ma l'ospedale Bambin quello? Gesù, cosa chi c'è? L'ha fatto? Sta il Vaticano, è del Vaticano quell'ospedale? In questa situazione. Quanti, ma in questa situazione proprio sta dicendo, ma lo difendi pure, lo difendi, ma il Bambin certo Gesù, chi l'ha fatto? Ma che chi l'ha fatto il Bambin andata, Gesù, l'ospedale, Berto, una delle grandi eccellenze italiane. Vai che siamo in conclusione, vai Berto, anche questa settimana è andata, siamo ancora vivi, combattiamo. Berto, dimmi, veloce, vai. Sì, senti, volevo dire solo come fa Parenzo avere sempre la verità in tasca. Perché ma nessuna verità, infatti. No, nessuna verità. Ti incazzi in una maniera allucinante. Vabbè, quello infatti, succede a tutti, eh. Cioè, No, ma sempre con le stesse persone, quello è il problema. Ecco, certo, quello mi manda i matti alcuni. Il Pope mi manda i matti, ad esempio. Infatti, quello è il problema, no? Ma ultimamente ho sentito anche come mai non restano infettati tanti extracomunitari. Perché vuoi che gli extracomunitari si infettino? Ecco, scusami, Berto. Sembra che preferisci gli extracomunitari infettati. C'è un complotto, perché adesso il virus l'hanno fatto in Africa per colonizzarci. L'hanno fatto in Africa adesso. Mi sono spiegato male, scusate. No, ma ho capito, l'hanno spiegato. Alcuni lo hanno spiegato, forse per l'età più giovane. Stanno studiandolo, stanno parlando. Studiandolo, dicono perché hanno il vaccino della tubercolosi. Non so se è una cazzata. È una cazzata. Italiani! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8. Hai ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere.